In questi 3 anni e mezzo di cammino a Mondeggio abbiamo cercato di difendere questo posto dalla privatizzazione e di restituirlo alla popolazione locale. Abbiamo avviato progetti agricoli, ristrutturato gli edifici, creato spazi assembleari e decisionali per tutta la comunità. Ora questo processo è minacciato da un nuovo tentativo di vendita, infatti il 30 novembre si chiude una fase che la città metropolitana ha lasciato per manifestare dichiarazioni di interesse per l'acquisto di Mondeggi, non più in un solo blocco, ma anche a pezzi. E quindi per la comunità di Mondeggi si ripropone la questione di dover difendere questo posto da una possibile vendita. E anche, diciamo, questo è uno dei temi che vorremmo affrontare nella giornata di oggi, ma non solo. Abbiamo pensato a questo incontro come un momento di analisi, organizzazione e scambio di pratiche di lotta e resistenza, nel tentativo di stringere accordi, alleanze e lacci di complicità che possano superare le barriere geografiche che ci separano. Come possibile obiettivo dell'incontro, avevamo pensato ad un'agenda condivisa, grazie alla quale potremmo già da subito dare continuità alle tematiche che oggi affronteremo. Ora vi presento chi di noi svolgerà il ruolo di moderatore, che è Niccolò, e vi ricordo che tutta la giornata di oggi è registrata ed è in diretta su Radio Wombat, e ringraziamo i compagni e le compagne di Radio Wombat. E alla fine di questa mattinata ci sarà il pranzo. E tra le 3:30 e le 4 cominceranno due workshop, che uno sarà su media attivismo e verrà fatto da autistici, e l'altro su ecologia politica e forme di vita contadina. Ora lascio la parola a Niccolò che vi spiega un po' quali sono le regole del gioco. Buongiorno a noi, sono Niccolò e cercherò di moderare e facilitare la discussione a seconda di come verterà. Mi piacerebbe e ci piacerebbe riuscire a mantenere un profilo molto pratico di tutto questo incontro. Ovviamente l'abbiamo diviso in parti proprio per facilitare poi anche lo stringere, l'atterrissare e il quagliare, quindi le cose che verranno dette. Io avrò quindi facoltà anche di interrompere e di rompere le palle se qualcuno parla un po' troppo, eccetera. Infatti avevamo messo i soliti tempi per una prima parte che è più tematiche un pochino più generali, forse andiamo meno sul pratico, sulla prima parte, e per cui ci saranno interventi di circa 4 minuti. Giusto? Ovviamente sono flessibili, non è che interrompiamo al 240esimo secondo. E poi la seconda parte invece andiamo un po' più sullo specifico e cerchiamo proprio di arrivare anche insomma, a stabilire delle pratiche di mutualismo, di scambio di esperienze, di incontri successivi, eccetera. Il microfono se n'è andato, allora alzo la voce. Sì? Per cui chiedo per favore a tutti un paio di cosette, più che regole sono indicazioni di buon senso. Quindi interventi di circa 4 minuti nella prima parte e poi di 3 minuti nella seconda, quando vogliamo arrivare appunto a sintetizzare, arrivare a delle cose più pratiche. Chiederò a ogni tanto, diciamo, di stringere se qualcuno va oltre o sta uscendo dal tema o se sta affrontando tematiche troppo individuali o se si sta ripetendo. Se poi durante l'incontro ci saranno delle proposte che richiedono una decisione, allora a un certo punto farò il punto della situazione e chiederò che si arrivi appunto a una decisione, che sia approvata o meno quella proposta che è stata fatta, in cui parlerà chi non è d'accordo secondo il metodo del consenso. Per cui passo un attimo a presentare, a parte me, c'è cioè Omar che prenderà gli interventi, poi e Niccolò, che invece prenderà il tempo, quindi loro sono gli altri bracci della legge. E laggiù invece abbiamo Serenella, giusto? Come? Loretta, scusami. Loretta che è piazzata nel mezzo di due bacheche o comunque di due lavagne. Cercheremo di scrivere in una, quella più a sinistra del muro, le cose che verranno decise o comunque i prossimi incontri, quello che si riuscirà a rendere pratico e anche a calendarizzare, e quella di destra invece ci sono le vie, le varie parole chiave che usciranno dalla discussione, in modo anche da capire quali sono i concetti che escono. Ecco, infatti avevo confuso. E poi c'è verbale, verrà preso da Stefania, da Stea, e direi che possiamo cominciare quindi con la prima parte, che durerà circa un'oretta e mezzo. Chiederò a un certo punto di interrompere in modo da fare proprio il punto della situazione, e chiederei quindi a Francesco Valente di, se vuole, leggere una parte che introduce quindi questa prima metà, che nasce quindi dalle considerazioni fatte da lui, da Antonio e altri qua di Mondeggi, sul tematiche globali e come poi da quelle possiamo estrapolare la parte pratica specifica della situazione di tutte le realtà qui presenti. E qua c'è un sofà, benvenuto anche a lui. Allora, scusate, leggo per spicciarla prima, semmai dopo, se sarà opportuno, articolerò, se interesserà, o articoleremo. Insomma. Un terzo tema, c'erano altri due nella presentazione, quindi per questo si parla di terzo tema. Il terzo tema sul quale potrebbe svilupparsi il dibattito e che resta sullo sfondo di tutte le domande finora elencate in questa presentazione, appunto, nasce da un duplice ordine di considerazioni ormai condivise da chiunque osservi la realtà sociale contemporanea. Da un lato, l'incontestabile arretramento delle condizioni materiali e relazionali di vita delle popolazioni. Dall'altro, la generale disillusione rispetto alle aspettative suscitate dal modello egemone di convivenza umana e che si infrangono contro l'evidente insostenibilità ecologica del sistema, il crollo del mito sviluppista, la generalizzata asimmetria distributiva sul piano delle risorse e delle opportunità, la liquidazione dei dispositivi di controllo democratico e la promozione di un modello costituzionale reale di post-democrazia. Infine, l'irrazionale onnipotenza dei circoli finanziari globali, eccetera. In rapporto a tali evidenze, peraltro largamente riconosciute perfino dagli analisti mainstream, evidenze che configurano una situazione di disagio e di insoddisfazione assai marcate, occorre prendere atto della paradossale latitanza della protesta sociale, stante che la storia non procede secondo linearità deterministiche e che la mobilitazione ideologica dell'avversario è stata massiccia, va comunque sottolineato che una situazione oggettivamente così ricettiva, da un punto di vista oggettivo, per le sollecitazioni critiche non si era data neppure tra i 60 e i 70. Di fronte a tale spettacolare capacità di metabolizzazione mostrata dall'esistente, è allora probabilmente necessario porsi qualche domanda. Ad esempio, e qui è il succo dello spunto più o meno provocatorio, decidete voi, che volevamo offrire. Siamo sicuri che la tenuta dell'organizzazione sociale dominante non sia agevolata dal fatto che non riusciamo a proporre e ad avviare un progetto significativamente alternativo o, detto altrimenti, che per svariati motivi accettiamo di scorazzare in uno spazio marginale e recintato, una sorta di area cani assegnataci dal sistema globale, in quanto tale gestibile ordinariamente dagli apparati periferici di controllo? Siamo sicuri che non sia arrivato il momento di deterritorializzarci e di saltare le barriere per fare altro, effettivamente altro, ossia di esercitare una critica pratica non neutralizzabile, non riconvertibile, non recuperabile agli interessi del capitale? Pur considerando la diversità, talvolta anche pronunciata, tra le varie situazioni e la vacuità delle trasposizioni meccaniche, che spunti possiamo trarre in proposito dagli avvenimenti sociopolitici verificatesi un po' dovunque negli ultimi 20-30 anni e segnatamente in America Latina, Rojava, Grecia, Africa Mediterranea e da quelli succedutisi dal dopoguerra ad oggi in Italia? Bene. C'è bisogno di qualcuno che rompe il ghiaccio. Se siamo tutti d'accordo, noi avevamo pensato che appunto oggi non era tanto una giornata di descrizione, però se volete veramente presentarvi con due parole dicendo il nome del collettivo, della realtà, del progetto da cui venite, poi magari si sblocca un po' questo freddo e si comincia. Vabbè. Allora, propongo che chi vuole presentarsi e sente adesso il bisogno di farlo, chiede la parola, però che sia per favore il momento non semplicemente in cui uno si presenta, ma poi sia già l'occasione per legarsi al punto detto, cioè come la realtà che ognuno di noi rappresenta si trova in una situazione in cui o ha bisogno di uscire dall'aria recintata per cani che del discorso di Valente, oppure in che cosa sta facendo per trovare una soluzione. Ok, quindi che sia in funzione di questo la presentazione, non solo per identificazione. Quindi chiediamo almeno questo compromesso. E se no comunque io proporrei proprio a Francesco, se vuole estrapolare, di raccontare meglio quello che stava leggendo, o comunque essere ancora più provocatorio, almeno con la provocazione ci riscaldiamo. Vai Sante, comincia tu. Ci sono anche gli altri due microfoni, comunque, se volete. Visto che è registrata la... Questo qua. Questo qua. Allora, lo prendo. Allora, al volo, buongiorno a tutte e a tutti. Noi facciamo parte, l'abbiamo già detto ieri, del nodo solidale, cioè sia la parte messicana che la parte italiana. Io sono Franco, sono di Monticello, Monte Amiata, Comitato contro la geotermia. Noi siamo di Lappazzol, Roma. E... Alessio, ciao. Comitato abitanti Viale Corsia, un comitato di quartiere qua di Firenze. Ciao, noi siamo di XM24 di Bologna, spazio pubblico autogestito. Cioè, noi non siamo di nessuno spazio e siamo di Torino. No, è che esatto, non preferirei non identificarmi e forse anche altre persone non hanno voglia di farlo. Ciao, io sono Riccardo, sono di Progetto De Gage da Roma. Comitato Giovani Notav dalla Val di Susa. Siamo il collettivo Non Porto da Fiumicino. Siamo il collettivo Non Porto da Fiumicino, vicino a Roma. Cavallerizza Reale Torino. Io appunto proviamo a articolarlo allora un po'. Qualche giorno fa sono stato alla presentazione di un libro, era Non è lavoro ma è sfruttamento, di Marta Fana. E, nella presentazione uno degli organizzatori ha citato un fatto era successo in giornata, il giorno prima, ora non ricordo, cioè la riassunzione dei 1666 licenziati da Almaviva, che poi insomma erano invece qualche centinaio perché erano quelli che avevano fatto ricorso, però questo naturalmente apriva poi delle ottime prospettive per gli altri di riassunzione, e lo citava come un episodio del quale ci si doveva molto rallegrare. C'è stata la presentazione e naturalmente era una critica feroce del modello dominante esistente, cioè di quello capitalistico, una delle tante ormai analisi che vanno in questa direzione, e al momento di chiedere delle domande dall'uditorio io mi sono alzato e ho detto che, dato che questo modello era così negativo e lo si dimostrava per l'ennesima volta, com'è che ci si poteva rallegrare del fatto che alcuni che ne erano stati espulsi, lottando, erano riusciti a rientrarci dentro. Questo forse era una contraddizione che certamente pluridecennale, a dir poco, che il movimento in generale di contestazione critico radicale in Italia e non solo si portava dietro, una contraddizione che non riusciva ad affrontare. Sono state risposte piuttosto piccate, ne è nato quindi uno scontro abbastanza polemico, ma insomma questa è cronaca. Il problema che io personalmente in quella sede volevo appunto evidenziare era come di fatto la protesta e la contestazione radicale in Italia non avesse a disposizione nessun tipo di proposta effettiva da rivolgere alla società. Noi siamo estremamente ricchi da un punto di vista di iniziativa di opposizione, tant'è vero che siamo una collezione ormai epidemica di no qualcosa, e qui ce ne sono varie rappresentanze, però appunto lo siamo in negativo, noi giochiamo assolutamente in rimessa rispetto alle iniziative dell'avversario e ci opponiamo, ma non abbiamo uno straccio di proposta reale da presentare, se non qualche vago oscuro richiamo a tradizioni che però sono ottocentesche, che hanno ovviamente delle inadeguatezze che sono state anche studiate, non è che siamo a zero, assolutamente no, rispetto a delle tematiche che potrebbero attualizzare quel discorso, però voglio dire non ci mettiamo nella condizione di riassumerle, di dare un contorno unitario, di esprimere delle concezioni abbastanza complessive, alternative, e soprattutto di metterle in pratica nel senso di una prospettiva altra, completamente altra rispetto al sistema. Questa problematica non solo è presente, e questa contraddizione non solo è presente da molto tempo, ma da almeno 5 anni, cioè è diventata evidente. Bene, quello che è successo a Taranto con le vicende dell'Ilva ne è stata una dimostrazione palese. Non solo lì si è consumata la frantumazione delle ultime sopravvivenze o sedicenti tali di rigidità operaia interpretate dalla fiomma di Landini, ma in quella situazione il movimento in generale ha brillato per un'assenza, una afasia totale, perché non abbiamo una proposta, noi non sappiamo cosa dire di realmente alternativo. In una situazione che non può prevedere solamente l'opposizione. E questo è un dato che purtroppo noi non abbiamo nemmeno noi andiamo a rimorchio di una situazione, di una concezione che ritiene che la storia vada in un certo senso, per cui basta sostenerne questo percorso opponendosi a coloro che sono gli interpreti di un'organizzazione della società fondata sul dominio. Non funziona così. Tanto è vero, faccio un esempio unico per chiudere perché mi dicono che ho sforato, prendiamo la vicenda dell'ecologismo in Italia, chi ha l'età per ricordarselo, 40-50 anni fa uno che aveva le preoccupazioni di tipo ecologista era più o meno una macchietta sociale. Va bene. Oggi questa è la consapevolezza della problematica ecologista, ce l'ha quasi chiunque in qualche modo, cioè non, rispetto a 40 anni fa non siamo su un altro pianeta, siamo in un altro universo, va bene, a livello di consapevolezza. Eppure E questo è stato sostenuto da un lavoro enorme che è stato fatto da attivisti, eccetera. Vorrei sapere però, in assenza di una proposta complessiva, tutta questa consapevolezza di quanti minuti ha ritardato, se lo ha ritardato, lo sfruttamento e l'inquinamento di pianeta. O addirittura non ha peggiorato la situazione, visto che ha consentito lo sviluppo, per esempio, del green business? Prendetevi i microfoni, ce ne sono tre disposti per tutti quanti. No, rispetto a quest'ultimo punto, diciamo, rispetto a questo ultimo punto, diciamo, anche noi abbiamo fatto delle riflessioni. Naturalmente non abbiamo delle risposte per nessuna di queste tre domande, però quest'ultima di più ampio respiro. Proprio rispetto all'ecologismo, pochi giorni fa è uscito un articolo scientifico, diciamo sottoscritto da 15.000 scienziati nel mondo, che si chiamava Un Second Warning to Humanity, ovvero un secondo ammonimento, perché il primo era stato fatto 25 anni fa e sempre sottoscritto da decine di migliaia di scienziati in tutto il mondo, in cui comunque avvertivano del problema, diciamo, ambientale legato a un certo tipo di sviluppo, che in realtà poi appunto non ha visto miglioramento su nessun punto a parte il buco dell'ozono. E questo secondo me si lega molto al discorso di trovarsi in una condizione che è paradossalmente la più fertile per un modo di messa in discussione di un determinato sistema, e spesso, diciamo, l'ingiustizia sociale va a braccetto con l'ingiustizia ambientale, perché i più grandi scempi ambientali poi vengono comunque accompagnati a delle imposizioni su quelle che sono le popolazioni, che sono devastanti. E un po' una riflessione che ci è venuta è che comunque tutte le realtà nel mondo che in qualche modo hanno effettivamente provato a costruire una società che sia completamente distante da determinate dinamiche di quella neoliberista e capitalista, comunque hanno sempre molto molto forte radicata una concezione di ambiente, e quindi di rispetto e tutela di quelle che è la natura, che è sostanzialmente differente, cioè dalla quale la società occidentale si è molto allontanata. Per questo forse siamo diventati così insensibili sia a quelle che sono le problematiche sociali che ambientali, diciamo a livello sia territoriale, ma spesso poi proprio di ampio respiro globale. Quindi effettivamente la riflessione propositiva in tal senso è che comunque è necessario ritornare alla natura, nel senso che per poter provare a scardinare determinati meccanismi, innanzitutto comunque rifarsi a quelle che sono un po' delle dinamiche ambientali che non sono quelle diciamo esponenziali del sistema occidentale capitalista, è già un punto di forza. Questa era un po' la riflessione che abbiamo fatto tra di noi. Io parlo a nome dei Puzzle e Astra, due spazi al Tuvello, a periferia nord-est di Roma. Ovviamente ringraziamo per l'invito e la costruzione di questa bella due giorni ai compagni di Mondeggi. E provo a essere rapido, anche se comunque sia dalla terza domanda, che è quella di più ampio respiro, è abbastanza complesso. Noi su questi temi il ragionamento che ci siamo fatti è anche un po' una rilettura nostra storica, nel senso che noi, intesi come movimento in senso lato, abbiamo sempre fatto la sinistra della sinistra, c'era sempre il Partito Comunista o comunque quel partito di sinistra a cui noi provavamo a spostare sempre più a sinistra. Ad oggi questo non c'è più, non c'è più una sinistra e noi stiamo ancora facendo la sinistra della sinistra senza quella sinistra da spostare. E quindi la nostra lettura è che risultiamo molto non intellegibili, no? Nel senso, l'hai detto già bene tu, continuiamo una lotta per i no, nel senso tante manganellate abbiamo preso per il Job Act, la buona scuola, la riforma Gelmini, però quando proviamo a dire noi qualche sì, a proporre noi quell'alternativa da percorrere, a proporre noi, non so, ad esempio, come produrre quello che consumiamo in dinamiche fuori dal capitalismo, oppure come produrre noi processi decisionali che siano veramente orizzontali, perché poi anche questo, no? Dentro i collettivi tante volte si creano delle dinamiche relazionali, diciamo autoritarie, dei modelli di presa di decisione che sono tutt'altro che democratiche. E diciamo, se prendiamo come assiomi per la costruzione di questa alternativa gli assiomi ben detti da Ocalan, e quindi femminismo, ecologia e democrazia diretta intesa anche come lotta di classe, nel senso come riappropriazione dei mezzi di produzione. E ripartendo da qua va fatto ovviamente tutto quel percorso di decostruzione e ricostruzione del movimento stesso, che è un lavoro difficilissimo, ma che se iniziamo a farlo piano piano potremmo raggiungere quel livello di lotta e di alternativa da proporre alla società. Ovviamente poi, leggendo la situazione europea e mondiale, mi viene da pensare alla Grecia, che ci dà un po' la necessità di fare questo percorso in una maniera veramente autonoma, no? Nel senso che poi, se proviamo ad accelerare con un'elezione e poi facciamo anche fare un referendum che prova a dire no all'austerità, il popolo dice no all'austerità e poi non hai le condizioni materiali per farlo, ovviamente ti cade anche un po' il ragionamento. Mentre nella costruzione poi dell'autonomia da parte degli zapatisti o da parte dei curdi o ma anche dei Semterra in Brasile, quell'autonomia, proprio perché materiale, hanno ribaltato i meccanismi di produzione, le logiche di prese di decisione e quindi di amministrazione dei territori, riescono a vincere nonostante l'oppressione e la lotta che gli viene fatta dall'alto. Io volevo dire solamente due parole, seguendo un po' questa linea di interventi. Come ha già detto Francesco, nella situazione attuale c'è un dissenso sociale molto elevato. Eppure a questo dissenso sociale, quello che stiamo vivendo oggi è la dilagazione di nuovi fascismi, e dall'altra parte, in tutti i nostri spazi, almeno qua a Mondeggi, noi proviamo a occuparci di una parte che noi consideriamo molto importante, cioè la produzione materiale di beni primari come è il cibo. E sono sicuro che in tutti gli spazi che tutti voi attraversate e di cui fate parte, ci sono palestre popolari, progetti che riescono comunque a dare un respiro ai luoghi di resistenza dove stiamo tutti noi. Eppure la piccola riflessione che abbiamo fatto anche noi qui è quella, secondo noi manca da un bel po' di tempo, quello che ormai possiamo diciamo chiamare questa denominazione che abbiamo sempre utilizzato del movimento, che purtroppo però è ormai un po' obsoleta. Manca un'articolazione di tutte queste autonomie che si stanno sviluppando, ed è proprio questo il tentativo che volevamo portare oggi. Come facciamo a articolare tutti i nostri progetti, tutte le nostre buone intenzioni in territori geograficamente distanti? Secondo voi è necessaria, e non spaventatevi, un ripensamento di una nuova struttura che possa articolare tutti questi tipi di autonomia, da quella alimentare a quella della educazione a quella della salute, eccetera, eccetera, eccetera? Salve, io sono Gigi, collettivo No Porto, e in merito a quello che ha detto Francesco, se non sbaglio, rispetto all'uscire appunto fuori da, diciamo, dalle barriere, entrare nella società, cioè comunque riuscire a modificare attivamente quello che poi a cui ci opponiamo, dunque proporre uno sviluppo alternativo reale possibile. Noi abbiamo fatto questa riflessione in verità per tanti anni, da quando abbiamo iniziato, sul discorso che facciamo No Porto. Noi siamo una realtà che resiste contro una creazione di un grande porto sulla costa di Fiumicino, vicino a Ostia, un luogo, diciamo, di speculazioni gigantesche, adesso pure famoso, insomma, per delle capocciate, insomma, per il malaffare che dilaga. E, detto questo, noi da sempre ci poniamo il problema di come le nostre, diciamo, buone intenzioni possano uscire fuori e creare un modello alternativo reale. E non è facile, cioè, secondo me, almeno questa è la mia riflessione personale, le pratiche che adottiamo nelle nostre autonomie sono forse l'unico modo di contrastare questo che è il sistema che diciamo vogliamo combattere, cioè continuare con le autonomie, cioè comunque i microcosmi che si uniscano e fanno rete. C'è, cioè, un'esperienza di oggi per me è un grande momento, perché appunto conoscere e fare rete e creare un modello alternativo nei microcosmi, nei luoghi dove si hanno i problemi, dunque riuscire a impattare sulla società, magari, ecco, con progetti come le palestre popolari. Noi ultimamente stiamo mettendo un progetto di scuola vela popolare, cioè riuscire comunque a impattare sul territorio. Noi sul lavoro abbiamo fatto poche riflessioni effettivamente, perché diciamo a Fiumicino il discorso operaio è un settore pure abbastanza assente, c'è il discorso dell'aeroportuale, c'è tutto un discorso di raddoppio dell'interporto, pure lì c'è comunque ci sono associazioni sindacali che fanno lotte, ma noi dal nostro punto di vista, diciamo, possiamo agire secondo me con pratiche sostenibili da parte nostra, dunque esperienze come le palestre popolari, la gestione di un oliveto con i cittadini. Forse allora mi viene anche da pensare, gli zapatisti hanno, diciamo, modificato dopo 25 anni la loro lotta, appunto hanno creato il Consiglio Nazionale Indigena, hanno candidato una persona, una indigena, nel modello elettorale. Mi viene in mente l'esperienza adesso napoletana di questa candidatura, e forse ci possiamo fare delle domande su questo, cioè cioè creare un nuovo modello, quello che dici tu, di azione, potrebbe anche essere questo, forse, cioè andare a impattare su un discorso istituzionale, cioè non essere più il no porto, il no TAV, stare fuori dalle dinamiche istituzionali, potrebbe essere questa forse una chiave nuova. Noi non ci abbiamo mai pensato e provato, però il mondo è cambiato, la lotta cambia e forse, cioè, quello che voglio fare io, voglio fare anche una domanda in più, dico, chiedo, io non posso dare risposte, chiedo, sono qua per ascoltare. Ciao a tutte e a tutti, grazie innanzitutto agli organizzatori per l'opportunità di questa assemblea. E allora, no, non faccio parte di nessun collettivo italiano perché vivo in Latino America e faccio parte di due associazioni ambientaliste equatoriane che si chiamano Acción Ecológica e Yasunidos. E però in questi 3 mesi che sono stata in Italia, diciamo, ogni fine settimana mi sono fatta degli incontri più o meno così. E le domande sono praticamente sempre le stesse e anche i saluti, diciamo, l'arrivederci è bene o male sempre un po' vago e a volte ho avvertito anche un po' di frustrazione rispetto appunto all'incertezza che poi alcune riflessioni provocano. E nel mio caso, proprio lo scorso fine settimana a Bologna ci chiedevamo questa cosa con un collettivo femminista, il fatto di non definirci antisessista, antifascista, cioè sempre questo anti, oppure ecco, nel caso dei movimenti, ne abbiamo parlato anche con i ragazzi, con i compagni e le compagne NotUp, il fatto di creare un movimento che sia solo atto ad opporsi ad un modello non dà a volte modo, o almeno rinchiude i movimenti o dei gruppi di persone che comunque molto coraggiosamente si stanno opponendo a dei mega progetti, non gli danno poi modo di svilupparsi in delle alternative. Ecco, quindi sicuramente il fatto di usare un codice comunicazionale differente, quindi in una parola per definirci, avere inclusa una proposta, sicuramente potrebbe essere un primo passo da fare, sicuramente più coraggioso, perché il fatto di porsi sempre all'anti, al no, un pochettino ci tutela anche dal metterci in gioco in prima persona, però dobbiamo essere coraggiosi secondo me anche in questo, il definirci, cioè antifascista che cosa sei, comunista, sei socialista, dobbiamo cominciare ad averci il coraggio di nominarci, anche perché sono, penso per tutti, ma almeno nel mio caso sono riflessioni, ecco, che io porto avanti già da tanto tempo e io non ho problemi ad esprimere quello che sono, quello che i miei ideali hanno costruito dentro di me. E un'altra riflessione rispetto a questa struttura di cui tu hai parlato è proprio una cosa su cui io sto riflettendo un pochettino in questi mesi, quest'anno, e cioè il fatto che secondo me comunque il sistema sia patriarcale che capitalista si basa appunto sulla creazione di binarismi, non intendo dicotomie, ma intendo dualismi, e cioè da un uno la creazione di due cose che sono opposte e non sono conciliabili. E quindi secondo me il fatto di opporsi come controegemonia ad un'egemonia non significa creare un'altra struttura, creare un'altra egemonia, ma smantellare e decostruire totalmente quel tipo di dinamica di costruzione, di strutturazione anche dell'io, anche della personalità, ma anche dei gruppi che poi noi costituiamo, e quindi trovare proprio dei paradigmi differenti, cioè non incastrarci in delle strutture già prestabilite egemoniche, ma cercare, ecco, per esempio il potere spesso ci vuole divisi, no? Il fatto, non so, per esempio io adesso mi sto approfondendo la NotUp, il movimento, la TAP come sta lavorando, ha decostruito tutto il tracciato SNAM e poi si chiama in un altro modo e poi in un altro modo per controllare E quindi sicuramente il fatto di unione, che non significa omologazione, ma il fatto di creare un nuovo contenitore strutturalmente differente, che non segua né una egemonia né una controegemonia, sicuramente è il primo passo. E quindi proprio decostruirci, ma secondo me interiormente, e poi trasmetterlo fra di noi, primo. Sì. Ah sì sì, scusa, speravo di essere molto concisa. E poi secondo il fatto di fare rete, che è la cosa che io sento sempre come un mantra in tutti questi incontri, però poi gli individualismi purtroppo anche nei movimenti sono molto... sono sempre molto aggressivi, ecco. E invece no, in realtà ecco, anche una cosa su cui dovremmo riflettere è appunto questa, l'ascesa in campo dell'ex OPG Jesu Paz di Napoli, che si è proposta come un contropartito. È da tenere in considerazione, è da vedere, io li frequento già da un po', vedere loro che ci hanno da dire, e se è solamente una manovra controegemonica però all'interno di una stessa struttura, o se è effettivamente un'altra proposta dove chiunque di noi si potrebbe proporre. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Volevo... io penso che la domanda sia abbastanza difficile anche da dargli una risposta, però il movimento adesso si interroga molto su quello che è un immaginario, costruire un immaginario soprattutto riproducibile, e anche quello che ha detto Antonio, secondo me sui vari fascismi hanno purtroppo questo radicamento molto, molto forte, perché il fascismo sociale insomma si radica molto attraverso comunque rapporti, e quello che secondo me dovremmo anche incanalare anche noi, dovremmo costruire anche noi dei rapporti, dei forti legami anche con il territorio, soprattutto con chi lo abita, forse partire da questi, partire anche da cercando comunque di creare dei legami su chi, con chi realmente lo abita, o comunque cerca di trovargli un altro modo di viverlo, di vederlo un territorio. Noi come realtà, anche un comitato è nato, faccio una breve sintesi, è nato da poco come comitato cittadino di un quartiere, e attraverso comunque facendoci vedere anche in piazza, lo so che sono le solite cose che penso ogni collettivo, ogni realtà cerca di riprodurre, però è molto, molto importante secondo me partire da un legame reale col territorio. Molte volte ci scordiamo di questo andando anche avanti avendo anche paura di cadere in molte contraddizioni. Nulla, era un brevissimo intervento, poi cercherò di spiegarmi meglio più avanti. Allora, io volevo dire un paio di cose. Insomma, noi siamo al Nodo Solidale, ieri abbiamo attaccato un pippone sul Messico praticamente di 7 ore, quindi insomma non ripetiamo questa cosa, no? Però è un ragionamento abbastanza, insomma è un piccolo spunto di discussione anche che viene da là. Noi ovviamente come Nodo Solidale siamo un collettivo di solidarietà dal basso, ma siamo anche tante individualità che vengono da percorsi politici completamente differenti, e affini, complici, ma abbiamo comunque e siamo parte anche di tanti collettivi a livello individuale, per cui anche abbiamo anche all'interno del collettivo un grosso confronto, insomma ci relazioniamo su diverse cose. Ritornare al discorso anche che si faceva all'inizio e che dicevano anche le compagne e compagni del collettivo No Porto, anche sulla questione dell'ambientalismo, Allora, dal Messico a noi ci sono arrivati in questi anni una serie di figure retoriche molto importanti, spiegate molto, molto semplicemente, che ci hanno anche un po' aperto gli occhi, ci hanno anche fatto fare il ragionamento sulla questione del nemico da combattere, sulla questione del punto di partenza su cui partire, no? Una era l'idra. La figura dell'idra, di questo mostro a diverse teste, no? Che è proprio quello che diceva probabilmente Francesco all'inizio, cioè la questione che abbiamo mostro a diverse teste, ogni volta che se ne taglia una ne compare un'altra, quindi cioè, il problema non è finito, e quindi cercare anche di capire la complessità del problema per partire da quello. E un'altra questione che ci hanno posto le zapatiste e i zapatisti, e probabilmente era anche quello che diceva Martina su questo appello in questo momento, e loro ci parlano della tormenta, di quello che sta succedendo in questo momento come una tormenta, sta per arrivare una tormenta, e probabilmente non si, molto chiaramente non si riferiscono solo a uno dei problemi derivati da una di queste tante teste dell'idra capitalista che ci opprime ogni giorno, ma probabilmente è sottintesa soprattutto la crisi climatica, ambientale, globale, che è quella che veramente può portare alla distruzione. Ci parlano della tormenta, e loro appunto, e questa è l'importanza anche di fare questo discorso qui a Mondeggi, ed è un discorso che anche da anni insomma portiamo, ne discutiamo volentieri con le compagne e compagni di Mondeggi e delle reti appunto affini a Mondeggi, è la questione anche che il contadino, la figura del contadino, come si sono posti anche loro, gli zapatisti, i campesinos, no? La figura del contadino come vedetta, come la persona che da sopra un albero vede arrivare la tormenta perché vive della terra, perché vive e fa della terra la propria fonte di vita, e avverte tutti gli altri che magari noi assolutamente offuscati che viviamo in città, diciamo guardate che sta arrivando la tormenta, quindi organizziamoci come vogliamo, si può parlare di tutti i modi, dall'OPG a Napoli, le ultime cose, altre cose, va bene tutto, ma organizziamoci secondo le nostre forme, secondo le nostre geografie, secondo le nostre forme di costruire autonomia. Questo è un discorso, è ovviamente è una parentesi, è un sottofondo, comunque è lo sfondo delle discussioni che facciamo oggi e del contesto. Non è automatico essere ambientalisti, non è automatico essere ecologisti radicali o comunque no, è partire dai no per costruire qualcosa. La chiacchierata di oggi, insomma l'assemblea di oggi convocata dai compagni di Mondeggi, per me è molto importante anche per questo. Si stanno riunendo in questo posto persone che non devono oggi arrivare a una risoluzione di un problema, ma se ne stanno riunendo persone al di fuori di un'area politica ben definita, e questa è una cosa, teniamola conto, perché non lo so, tanti di noi fanno politica da molto tempo e non spesso succede questa cosa di ritrovarsi comunque a parlare persone di città, di campagna, di provincia, di comitati del no, di comitati del sì, di persone che fanno, di occupazioni al di là di qualsiasi area politica, confrontando diverse esperienze di autonomia, di autogestione, e avendo probabilmente anche un punto di vista molto sincero e poco egemone sulla via da prendere. Quindi organizzazione e autogestione, ma è importante anche partire da questo, partire anche da uno spirito realmente anti-egemone, che probabilmente insomma c'è qua. Questo era solo un piccolo intervento insomma a nome del nodo. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Lorenzo, sono indipendente, diciamo, e volevo solo buttare un pensiero mio, qualcosa un po' di concreto. Sono pienamente d'accordo col signore che ha parlato prima, che manca un'ideologia comune, o comunque anche solo delle idee che possono accomunare tanti movimenti sparsi per l'Italia, l'Europa e il mondo. Secondo me bisogna parlare, partire da quello che ci abbiamo davanti, perché siamo tutti qua in un certo senso per fare del bene alle persone che ci circondano. Tutti questi movimenti sono per fare qualcosa di grande che aiuti tutti, non per noi. E se guardi quello che succede in Italia, concretamente siamo davanti a due cose molto importanti. Una è la migrazione di massa, che abbiamo 600.000 persone che sono arrivate in Italia negli ultimi 3 anni e non sanno cosa fare, hanno bisogno d'aiuto. E due è l'economia italiana, europea. E il tasso di povertà in Italia è triplicato negli ultimi 10 anni. Quindi ci sono milioni di persone, centinaia di migliaia, milioni tra migranti italiani che stanno cercando delle risposte. Cosa accomuna questa gente? È la classe dirigente italiana, europea, a Bruxelles, ma anche a Washington, negli Stati Uniti, che non ha delle risposte. E ci troviamo i soliti politici, destra, sinistra, quello che vuoi, che ti dice le bugie e poi nei fatti le cose continuano come sono. Quindi io non ho risposte, però se si vuol parlare del concreto, abbiamo attorno a noi centinaia e migliaia di persone che stanno cercando qualcosa di diverso. Non, niente di radicale, ma solo una vita dignitosa, un modo per pagarsi da mangiare, imparare qualcosa, andare a scuola e basta. Quindi secondo me il punto di partenza per noi italiani che siamo qui, che abbiamo tutta questa gente attorno, è parlarci e cercare di espandere la nostra conoscenza dei problemi senza andare a pensare a massimi sistemi, che ci sta, però nei fatti il punto di partenza secondo me è questo. Io sono Martina e volevo un po' riportare le riflessioni anche di un'esperienza nel campo della salute, che è quello in cui, diciamo, di reti di cui faccio parte anche con Annalisa, ci siamo incontrate adesso dopo tanto tempo. E un percorso che è nato, giusto per inquadrarlo un attimo, principalmente da studentesse e studenti di medicina che hanno messo in discussione un po' il percorso dalla formazione medica, ampliando tutto il discorso della salute alla produzione sociale della salute e con uno sguardo ai quelli che sono i determinanti della salute, quindi la casa, il lavoro, le condizioni di vita, le reti sociali, l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi giusto, e praticamente diciamo questo percorso che è nato come un percorso di autoformazione è diventato poi una rete di movimento in qualche modo che si chiama Gruppa, che sta per Gruppo Permanentemente Aperto, e che ha iniziato, cioè poi continuato questo percorso di ricercazione, di inchiesta in qualche modo su le realtà di movimento e le esperienze della società civile nel campo della salute, no? Quindi cioè, questo lo riporto perché, cioè, per capire un po' la cornice e diciamo il punto da cui di osservazione e di pratica da cui partiamo. E in quest'anno, cioè diciamo anche l'anno scorso, abbiamo organizzato questi 3 incontri di discussione che richiamano esattamente i punti di domanda oggi. È il motivo anche per cui sono qua, perché mi interessava molto questa discussione, che riguardano appunto il rapporto con la comunità e le istituzioni. In questo momento noi ci stavamo appunto chiedendo, guardando a tutte quelle esperienze di autogestione in salute che vanno dagli ambulatori popolari autogestiti alle consultorie transfemministe queer, a esperienze di occupazione di terreni, a teatri, eccetera, quindi con questo tipo di sguardo sulla produzione di salute. Cioè una domanda che ci stiamo facendo è cioè chi è questa comunità, con chi si costruisce questa comunità quando fai un ambulatorio popolare autogestito, chi ha accesso a questo ambulatorio e con chi vuoi costruire questa comunità E un po' mi risuona il discorso di prima rispetto a questo antisessismo, antifascismo, antirazzismo che viene in qualche modo messo come presupposto e forse è proprio parte del processo di costruzione di una comunità antisessista, antifascista, antirazzista e tanto altro. Non solo anti, appunto, però è una domanda, nel senso che poi quello che è emerso anche nel nostro percorso è che nel relazionarsi direttamente sul territorio con uno spazio diciamo aperto alla città e al quartiere, cioè chi arriva, cioè, appunto, non necessariamente condividi questi riferimenti e anche come questi poi si traducono in delle pratiche condivise. E quindi questo è un punto molto critico, nel senso è un punto per noi adesso un po' al centro della riflessione, insieme al discorso dell'impatto che era un po', cioè sia della relazione con le istituzioni, quindi anche rispetto a tutto il discorso del mutualismo, del neomutualismo, del fatto di costruire degli spazi che in qualche modo poi rischiano di diventare una sostituzione del servizio, dei servizi di welfare. Scusa, ho finito? Finisco. No, cioè, perché appunto poi... Vabbè, e quindi insomma questo era un altro punto rispetto alla relazione con le istituzioni e l'altro che volevo riportare, che mi sembrava, è questa riflessione su le forme di impatto, quindi non so di che strumenti, cioè, ci dotiamo come esperienze per valutare il processo, ma anche l'impatto poi delle pratiche. Ciao a tutti, io sono Claudio dei Seminterrati e volevo dire solo un paio di cose, cioè condivido perfettamente l'analisi, però secondo me stiamo rischiando tanto di metterci fretta, cioè io sono dell'idea che alla fine parte integrante del sistema di cui stiamo cercando di uscire è proprio una certa economia del tempo. E a volte, a mio parere, questa fretta di dobbiamo immediatamente dare una risposta a un sacco di quesiti fa sì che prendiamo due scorciatoie. Una è quella della resistenza, del linguaggio della resistenza, cioè è molto più facile unirsi contro un nemico che unirsi su qualcosa di propositivo. E quindi finiamo sempre a ritrovarci uniti su abbiamo un nemico comune e quindi questo ci aiuta. Questo secondo me è uno dei problemi. L'altro, secondo me, è quello di proprio veramente partendo da esempi contadini e naturali, cioè di chiedere troppo a un germoglio, cioè di fare un sacco di sforzo per tentare di far diventare un germoglio un albero il più veloce possibile. E questo i germogli li brucia. Cioè stiamo bruciando da un germoglio all'altro perché vogliamo che immediatamente sia un bosco. Secondo me il lavoro in questo momento è un lavoro di protezione di questi piccoli spazi, di protezione e di farli crescere, anche tentando di non reinventarsi l'acqua calda, nel senso l'esempio del potere al popolo non solo in forma elettorale, ma quello che sta tentando di far potere al popolo, è proprio dire ok, cerchiamo di unificare queste lotte, creiamo uno spazio in cui queste lotte si possono parlare l'una all'altra. E il problema, come dicevi prima tu, è che giri per l'Italia e vedi che tutti stanno facendo sta cosa. Allora forse dovremmo invece tentare, ognuno fa il suo percorso, tentare fa incontri trasversali, cercare di avvicinarci a questo e secondo me di ripartire dalle tradizioni che abbiamo. L'Italia viene da una tradizione di mutualismo spinto. Il lavoro che è stato fatto sulle società di mutuo soccorso un secolo fa ha portato a delle trasformazioni. Queste secondo me prendono tempo, cioè non mettiamoci, non rientriamo nella mentalità da sviluppo di fretta, tranquilli. Cioè, ho 30 anni che ci smontano e ci frammentano, adesso lentamente ci stiamo ricostruendo. Partiamo da, esempio, logiche di mutualismo, impariamole, rimpariamole, facciamole crescere dentro ognuno i suoi gruppi e gli altri, però secondo me fa questa analisi di questo tipo, che è legittima, è fortissima e importante, finisce sempre a farci finire questi incontri con senso di frustrazione, che non ci abbiamo assolutamente niente da proporre. E poi in realtà nel quotidiano cose da proporre ce l'abbiamo, cioè le stiamo vivendo. Lasciamogli il suo tempo, se no veramente famo Podemos, cioè andiamo de corsa, tutti dai, e poi che hai fatto l'ennesimo partito, che più al 20%, che si sente contento e che c'ha gli scazzi interni. Grazie mille. Mi raggancio proprio a questo che hai appena detto, proprio per provare un attimo a fare il punto, a rispiegare, a dire che siamo partiti proprio dai massimi sistemi per poi andare sul pratico, perché poi sennò la frustrazione nasce se si finisce con i massimi sistemi. Invece stamattina siamo belli freschi, è importante fare riflessione su queste cose, perché incontri come questi ce n'è pochi. Dobbiamo sfruttarli al massimo, non con 4 ore di cose pratiche, nemmeno con 4 ore di filosofia. Quindi appunto quello che cerchiamo di fare è partire dal generale, poi vedrete che anche atterreremo tutti quanti piano piano. Quindi quello che poi si percepisce ovviamente è la necessità di uscire dalle dinamiche dell'eroe e dell'antieroe, quindi con le dinamiche in cui sì, c'è un nemico comune, ci siamo noi siamo la soluzione e per fortuna ne siamo convinti, però quando crolla l'antieroe crolla anche l'eroe, poi bisogna cercare di nuovo di riunirci e ricominciare da capo, invece fare un salto sopra e avanti o in basso a sinistra come il cavallo orbo, per cui ecco, trovare qual è l'obiettivo oltre il nemico, oltre la idra, quando viene sconfitta, cos'è, no? Quello che proponiamo noi, per ricollegarmi anche al discorso di Francesco. Quindi c'è la necessità che si sente palpabile di fare questa rete, uscire dagli individualismi aggressivi secondo alcuni, la necessità di organizzarsi, di fare incontri trasversali, di cercare qualcosa di diverso, di parlarsi e di non metterci fretta. Questo era un po' tutto, però con quali strumenti possiamo cominciare piano piano a tirare fuori questi per iniziare una transizione verso la seconda parte. Quindi l'emozione di fondo c'è, per fortuna, e siamo tutti proprio desiderosi che questo, penso, sia il primo di tanti altri incontri, ma possiamo già cominciare, no, a definire tutti questi strumenti, se siete d'accordo. Quindi partire da queste considerazioni, uscendo un attimo da quelle che sono magari, cioè, o meglio, traendo spunto dalle proprie esperienze, dalla propria lotta, però appunto siamo qui, siamo trasversalmente tutti qua e quindi approfittiamone proprio per chiedere agli altri come hanno fatto, quali strumenti non ci sono venuti in mente, quali possiamo utilizzare, quali hanno usato, quale usa il ZLN, che comunque come esempio è molto forte, è importante che siano qua con noi oggi, perché insomma sono 23 anni che continuano a cambiare strumenti, aggiornarli sempre di più, quindi qual miglior esempio, no? di lotta che si rinnova, e tante altre che sono altre nuove, quindi magari hanno bisogno di spunti per cominciare, per essere germogli che crescono, e ci sono però anche delle foreste qua, quindi dobbiamo cercare di trovare un metodo di coltivazione abbastanza comune, che poi ovviamente ognuno specifizzerà nella sua realtà. Quindi questo era un attimo per fare il punto, per cui la domanda che faccio io personalmente è: qualcuno pensa di avere in mano qualche strumento utile che voglia condividere e che da cui poi possiamo continuare con questo incontro? Grazie. Partendo direi proprio dall'esistente, che tendiamo a trascurare o comunque a cui non diamo rilievo, nonostante quello che pure stamani è stato già detto. Nel senso che esiste in tutta una serie di ambiti, parlo per esempio quello dell'istruzione, parlo per esempio quello della sanità, parlo per esempio quello dell'abitazione, della produzione, ad esempio di alimenti e non solo. Abbiamo delle competenze, le abbiamo da anni, in certi ambiti, parlo in senso generale, in certi ambiti queste competenze hanno anche una tradizione, perché la scuola popolare è ormai una tradizione in Italia. Ci sono delle competenze presenti. Qui il problema è organizzarle, metterle insieme. Non si capisce perché io debba andare a fare una manifestazione contro il TTIP, tornare a casa e andare al supermercato per fare la spesa. Non c'ha senso questa cosa. Ma neanche se al supermercato, ma neanche al mercato alternativo, voglio dire, a cui quelli di Mondeggi vengano a portare quello che coltivano, per esempio, devo trovare un altro tipo di relazione che è diversa, che è altra, che costituisce un percorso che esoda da quello stabilito, da quello dominante, perché in quel percorso io non ho possibilità d'autonomia. Non è che è un problema di aspettare o di non aspettare. Per fare un esempio, cioè per riferirsi a un elemento banale che amo ripetere, fino a che io utilizzo la moneta ufficiale, quella dominante, non ho una possibilità al mondo di uscire, perché è uno strumento di scambio che non gestisco io e di cui non organizzo la scarsità. Per cui a me con questi mi tengano storicamente dal 600 avanti Cristo per le palle con questo. Non ho una possibilità al mondo di essere autonomo se non rifiuto questa cosa, se non me ne invento un altro di strumento di scambio. E questo è il problema. Mettere in condizione tutte le varie competenze, capacità di entrare in relazione e di scambiarsi, di organizzare la propria esistenza in modo da non dipendere dal mercato in senso generale, dal mercato politico, da quello economico, da quello relazionale. Questo implica naturalmente, è stato anche sottolineato, voglio dire, implica uno sforzo che non è solo di tipo organizzativo, amministrativo, di tipo organizzativo economico, implica anche uno sforzo da un punto di vista di crescita personale su un piano umano, perché implica una serie di rapporti e di relazioni umane che sono totalmente diverse. Ma questa cosa qui è nelle nostre possibilità, cioè voglio dire, è oggettivamente così, che poi non si sia in grado di farlo, ma comincia a diventare veramente al di là del contesto, che è sfavorevole per un senso, ma per un altro abbiamo notato che è favorevole come forse non è mai stato nella storia. Effettivamente comincia a dipendere parecchio dalla nostra capacità soggettiva, perché voglio dire, ripeto, anche da un punto di vista teorico, se tornando all'aspetto filosofico, ci sono delle acquisizioni che ci consentono, ne accennavo già prima, un adeguamento proprio anche teorico di quello che può essere un riferimento concettuale. Noi ce l'abbiamo, parecchie cose, e lasciamo lì. In una situazione di sterilità, e che invece potremmo far produrre, ritengo, in maniera molto feconda. faccio un intervento, vabbè, non parlo proprio degli strumenti, scusa, è che io non mi sono presentata prima, mi chiamo Teresa, non mi sono presentata perché il collettivo di cui facevo parte si è sfrantato, quindi cioè, sono qua come individualità. Mi trovo sul territorio di Ventimiglia e lì abbiamo anche provato a vivere la lotta alla frontiera e sulla frontiera in modi differenti. Abbiamo provato anche ad unire la lotta per la difesa della montagna dalla sua devastazione per costruire un'autostrada, comunque una strada rapida per il transito delle merci e dei camion che fosse più economico, e dall'altra parte abbiamo legato questa lotta anche con la solidarietà alle persone in viaggio che si trovavano ad attraversare e a violare per primi la frontiera con i loro corpi. E abbiamo avuto sia esperienze, insomma, di piccole azioni, eccetera, sia di autogestione collettiva su quella frontiera lì. E vabbè, è una zona molto militarizzata, con una repressione abbastanza netta a qualsiasi tipo di esperienza autogestionale o collettiva. E una cosa di cui che sentivo parlare prima, per esempio, cioè per me il terreno di lotta istituzionale, quindi una storia, diciamo, partitica o che vada a porre la lotta su quel livello lì, di per sé esclude tantissime donne e uomini che non hanno un documento. Quindi di per sé per me non è assolutamente una visione, non è visionaria, non dà respiro, perché come diceva anche l'altro ragazzo, in questo momento in Europa comunque diciamo la nostra roccaforte viene assaltata da tantissime e tantissime sopravvissute e al capitalismo più brutale o alla sua faccia peggiore che è la guerra, eccetera eccetera, e che è dovuta allo sfruttamento dei territori dall'altra parte del Mediterraneo, è legata all'ENI e a tantissime compagnie che sono legate alle nostre vite, che sono l'idra che ci troviamo davanti. E pensare a delle soluzioni escludendo completamente queste persone qua, per me in questo momento non è assolutamente lungimirante. E sono persone che, cioè, nel senso che vivono tra l'altro un isolamento totale anche nel sistema di accoglienza, che per me non è degno aver questo nome, e boh, insomma, di per sé è già escludente in questo senso. Dopodiché, prima si diceva della rete, eccetera, bisogna riconoscere tra le varie realtà che ci sono, come un po' hanno fatto anche il Nodo con Mondeggi oggi, no? Riconoscere spazi e terreni di lotta e di confronto comune e costruirli. Questo richiede anche mesi, nel senso, darsi degli strumenti e riconoscere dei terreni di lotta comuni tra le varie realtà che ci sono richiede tempo, richiedono dei tempi che vanno rispettati, altrimenti ci si va un po' a essere, esatto, troppo frettolosi. E secondo me, oltre che in questa assemblea, no, si possono creare complicità esterne, no, da qua, tra le varie realtà che anche qui si sono conosciute. Sono d'accordo col discorso dei germogli, nel senso che dobbiamo dare forza con la concretezza a quello in cui crediamo e alle visioni che abbiamo. È chiaro che abbiamo anche bisogno di respiro, no? Cioè di avere delle prospettive e dei punti di riferimento comuni, secondo me si possono trovare e ci sono. E anche in questo senso può essere risviluppato un nuovo internazionalismo, in cui i punti di riferimento possono essere esperienze anche concretamente vissute di lotte in altri posti, in altre geografie distanti. E un'altra cosa, per esempio, che io stavo ragionando, cioè il territorio in cui vivo mi costringe a ragionare, cioè la frontiera è una linea violenta sulla stessa montagna che questa percorre. Ha creato divisioni, no? Prima c'era la transumanza, veniva fatta dalle montagne francesi, ora francesi alle montagne ora italiane, no? Quella linea non esisteva per chi abitava quelle montagne, no? Ora le montagne sono spopolate e quella linea esiste nettamente. Tanto più poi perché, essendo un territorio frontiera, il passaggio delle merci è fondamentale, quindi poi viene devastata nel concreto. E quindi i ragionamenti che ci siamo fatti, se all'inizio ci siamo ritrovati con un po' di compagni e compagni a organizzarci contro la frontiera con priorità la solidarietà alle persone senza documenti che la volevano attraversare, ci siamo portati a vivere quel territorio e la lotta in maniera molto differente, no? Che inglobava proprio 360 gradi e i vari aspetti. E noi ci troviamo davanti in realtà in tutti i territori a vivere questa complessità. E chiaramente ognuno di per sé in ogni territorio deve sviluppare i propri mezzi, le proprie lotte, ma secondo me soffochiamo molto se rimaniamo ognuno solo sul proprio territorio e ognuno solo sulla propria piccola comunità, perché in questo momento sono tempi di soffocamento e di repressione, oltre che, no? Di mancanza. Cioè, se dopo che abbiamo visto che gli strumenti che ci siamo dati non funzionano più, si riscende a ricreare la sinistra partitica, secondo me è perché non hanno avuto veramente abbastanza forza determinate idee, a forza e azione concreta. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Giovanni del collettivo Nodo Solidale Messico, c'ho una voce, sembra il nonno di Ligabue, però. Allora, io volevo dire quattro cose, ecco. La prima, forse anche per l'impostazione che ho io, che abbiamo noi in Messico, è proprio un secondo, noi anche tutti questi incontri, quando ci sono tante persone che ci riuniamo, ricordiamo anche sempre tutte quelle persone che ci hanno preceduto e hanno permesso anche di stare qua a noi, qua a incontrarsi. Questo lo facciamo quasi sempre in Messico, una cosa secondo me molto bella, quindi io volevo ricordare, prima di parlare, tutti i nostri morti, le nostre morte, che insomma è bene ricordarlo quando ci si siede, ci si ascolta e ci si guarda, e quindi volevo solo fare un accenno, un ricordo anche a tutte le persone, ecco, che prima di noi si sono trovate, sono guardate, sono seduti uno di fronte all'altro e hanno cercato di trovare delle soluzioni a delle domande come stiamo facendo noi ora. Questa è una piccola parentesi per riportare anche un po' delle forme che abbiamo noi per riunirci quando facciamo gli incontri là. Sì, più o meno volevo dire tre cose. Una è sottolineare il momento speciale anche che stiamo vivendo in questi due giorni, nella giornata di oggi. Io ora ho ascoltato anche, ma posso avvertire che c'è una narrazione su questi incontri come se si ripetessero, ce ne fossero tantissimi, e io non sono assolutamente d'accordo, perché io vivo ora in Messico da 4 anni, ma ecco, non politica la faccio da un po' di tempo in Italia, e se qualcuno mi cita un incontro multiarea dove c'erano almeno 5 aree, gli offro un caffè, perché io non ne sono andato a uno, forse l'ultimo era il Social Forum, non lo so, non mi ricordo, però mi risulta, ecco, che ci si è incontrati senza prendersi a cinghiate, ecco, ci si è incontrati parlandosi in una stanza con persone che veniamo da correnti e da aree diverse. Quindi magari non viene detto, magari dall'entusiasmo ecco messicano, però io sono proprio contento e vorrei sottolineare il momento speciale che è vedersi con persone che siamo di percorsi diversi, no? E vabbè, che magari forse appare una cosa naif, però è una cosa bella e speciale, e forse questa decostruzione di cui parliamo sempre, sti paroloni decostruire il postcoloniale, decostruire il patria, poi iniziamo anche a decostruirci incontrandoci fra persone che ecco mangiamo, caghiamo, camminiamo, siamo uguali, e quindi abbattendo un po' ste aree, sti steccati. In questo senso la proposta, per passare alla proposta e alla lasciare un po' la riflessione teorica, noi nel nostro piccolo come collettivo, come collettivi, ecco, una comunità che è Messico in Chiapas, questo discorso teorico del superare lo steccato, le aree, bisogna essere unite, tutto questo discorso l'abbiamo provato a superare nella struttura che abbiamo assunto come collettivo, cioè in pratica nel nodo solidale Italia ci sono persone di almeno 3 aree diverse nel collettivo che sono riunite in un'assemblea, e in Messico lo stesso, ecco, veniamo da percorsi diversi, dall'insurrezionalismo, da pianeti diversi. Questo lo dico perché poi quando si fanno sti richiami all'unità, a me mi ricorda molto i preti che parlano di come organizzare la famiglia, cioè io non so guidare un camion, non ho la patente, non parlo di come si guida una macchina, un prete non ha una famiglia, per me non, al di là di quello che dice, non si deve permettere di parlare dell'argomento. Quindi quando si parla di unità e di superare lo steccato, ecco, la cosa che noi proponiamo dalla pratica nostra, però non come proposta teorica, te fallo e io ti guardo, è che iniziamo a ragionare su strutture nei nostri percorsi dove includiamo e invitiamo persone che camminano altri cammini. Scusate l'italiano. Sì. La seconda cosa è una riflessione che viene dal Messico, che noi abbiamo fatto grazie all'esperienza anche messicana e agli altri popoli del mondo che si vengono a incontrare, soprattutto in Chiapas, dai Mapuche, i curdi passano, sembra un posto molto isolato, ma passano tante persone. Ed è una riflessione che magari io lancio anche un po' come una provocazione, che la trasformazione profonda della società, dei suoi meccanismi di produzione e di riproduzione materiale e immateriale, passa attraverso l'organizzazione. Cioè quello che diceva Antonio, secondo me, di non spaventatevi con la parola struttura, io lo condivido molto, perché adesso lo dico in maniera proprio brutta, ecco, però cioè, a gruppi di affinità non si cambia la società, lo dico così male, ok? Poi facciamoli tutti, facciamone tantissimi, però ecco, le trasformazioni profonde di una società, dalla liberazione della donna alla decostruzione del sistema del lavoro salariale, a tutte queste cose che costruiscono la vita di una società, evidentemente si cambiano se c'è una struttura dove si organizzano tutte queste individualità. Io non lo penso in teoria, lo penso perché lo vedo nel posto in cui vivo, per esempio. Immaginatevi agli Zapatisti senza una struttura. Ora, ieri è l'anniversario della ZLN e sono 34 anni di compleanno di organizzazione, ognuno con le proprie correnti, le proprie individualità, però con un'organizzazione, se volete con una centralità, ecco, non voglio usare un linguaggio vetero, e ora si guarda tanto al Kurdistan, insomma, tante diversità, però poi c'è anche un momento in cui bisogna un attimo quadrare, anche un attimo disegnare queste diversità, queste ricchezze, senza annullarle. Concludo, che sono fuori tempo. Quindi noi la proposta che facciamo come collettivo, come nodo Messico in pratica, per tradurla in pratica, che noi ci mettiamo a disposizione per esempio per venire a fare un processo educativo delle persone che vengono dai movimenti in Messico, cioè venire a scuola anche dai in questo caso dagli zapatisti, da tutte le altre resistenze a Oaxaca, Fincalemania, Alcodedi, Aoido, tutte queste organizzazioni contadine con cui noi lavoriamo, e noi ci mettiamo a disposizione per i compagni e le compagne che in questa giornata incontreremo a livello di contatti, per venire là e per camminare con noi, e per venire, io lo dico, a scuola, ecco, per venire a un processo di formazione. Questa è la cosa che noi abbiamo da mettere sul tavolo, è una cosa molto messicana. Quando si arriva a una riunione ti chiedono quantos, no? Cioè, no, il paradigma, così, quanti? Così tu puoi contare quanto sei la prossima mobilitazione, devi dire 50, 30, 60, è molto pratico, ecco. Quindi noi la cosa che possiamo mettere sul tavolo è di ricevere con amore, con profondità, con attenzione a tutte le vostre individualità, ogni compagno o compagna che da questa giornata vorrà venire a camminare i percorsi che stiamo facendo noi in Chiapas, dall'occupazione di Fincalemania di terre, alla cooperativa La Cosecha, alla casa di salud di donne Hibel Hik nel quartiere di Cux Italia San Cristobal. Per iniziare, volevo iniziare a mettere delle cose sul tavolo. Grazie. Salve a tutti e a tutte. E io mi è interessato molto quello che è successo quando è iniziato l'assemblea, insomma, che sul discorso della, come dire, di un progetto più ampio, insomma, di un'idea comune, di un progetto di un ideale comune da che ci unisse tutto quanto, c'è stato un silenzio interessante, no? E io sinceramente, perché io non ce l'ho sta risposta, ma io non ci penso proprio, cioè sinceramente io non ci ho mai pensato a sta cosa. Chiaramente ci ho pensato nel momento in cui ho letto le domande, però mi sono reso conto che un progetto che sia egemone è come se, come no, egemone, però nel senso un discorso più ampio di quello che è per me la comunità, è quasi un po' difficile da pensare, perché appunto penso che la mia unica rivoluzione reale è quella su me stesso, no? Quella che poi mi porta a non riperpetrare appunto quelli che sono gli elementi di questo sistema. E come la faccio sta cosa? Cioè, è una cosa che, se io comunque non cambio me stesso profondamente in tutto quello che io faccio, riporto comunque un sistema che sia attraverso l'aggressività, attraverso la violenza, attraverso tutta una serie di modalità che ho assimilato. Quindi mi rendo conto che appunto l'unica cosa che posso fare in questa situazione è appunto lavorare intorno a me direttamente, perché tutto ciò che vedo distante e quindi più ampio, meno diretto, come dicevamo prima, poi mi lascia questa frustrazione che in passato mi ha portato a chiudermi e non a aumentare, ad essere più spronato verso un lavoro antisistema, insomma, di contrappormi a tutta una serie di dinamiche che ritenevo sbagliate. Quindi credo, appunto, a me non mi interessa, insomma, un discorso più ampio, perché poi in realtà il discorso più ampio avviene da solo, come sta avvenendo adesso, no? Come in questa situazione ci ritroviamo tutti, che secondo me facciamo tutti la stessa cosa, con espressioni completamente diverse, ma facciamo tutti la stessa cosa, ci opponiamo a un sistema che non ci piace, che abbiamo compreso su noi stessi prima di tutto che non è questa la soluzione, non può essere questa la soluzione. Quindi io mi trovo, cioè è conflittuale sta cosa, forse la capisco e magari non sono manco troppo chiaro nell'esprimerla, però il fatto che anche il organizzarsi, sì, è importante, però quando diventa così, quando è questo, quando è spontaneo, quando arriva da solo, perché ok, ci vediamo, organizziamoci, su che cosa ci organizziamo? Cioè, se diventa l'organizzazione il discorso comune, allora secondo me no, non è quello. Quindi secondo me la soluzione c'è, è proprio, cioè, quello di cui noi parliamo, da cui è partita la domanda, insomma la questione già c'è, è questo qui, è il lavoro della comunità che è, secondo me è l'unica situazione appunto che confligge, che può veramente rompere questo sistema, perché anche un progetto, un pensiero più ampio, più che deve essere costruito, cioè una cosa che è più ampia della mia, della comunità, per me diventa comunque un modo per riproporre un, comunque forse degli elementi che contengono sempre elementi di potere, che è quello contro io mi batto principalmente, perché per me il problema è il potere. Nella sua esplicazione più varia, però è un potere che io mi rendo conto sono il primo portatore di questi elementi, quindi attraverso il lavoro che faccio, che è quello dell'esempio, perché poi appunto l'unica cosa che posso fare è esprimere il mio pensiero in quello che faccio e anche in quello che non faccio, perché delle volte non fare, magari quanto stavamo meglio se tante cose non fossero state fatte. Quindi anche l'attesa, appunto, come dicevamo prima, come diceva lui, il fatto di non porci una fretta è comunque un elemento che va proprio a scardinare quelli che sono gli elementi importanti di questo sistema, appunto la fretta, la riappropriazione dei tempi, una modalità diversa di cambiare che secondo me è presente pienamente in questa sala, nelle sue varie espressioni. Sì, assai presente. Allora, proprio partendo da questa cosa qui, vista anche appunto le tempistiche eccetera, stiamo già passando automaticamente alla seconda parte, perché sembra che davvero c'è la voglia e il desiderio, insomma, di iniziare a mettere in pratica certe alcune cose. E stiamo segnando già gli interventi. Per fare l'ultimo punto di questa prima parte, sono venute fuori anche altre cose, come il tema quindi sulle competenze di ognuno di noi, come organizzarle e quindi come trasmettercele, con quali strumenti. È arrivata per esempio la bellissima proposta del nodo solidale, quindi loro metteranno a disposizione tutto quello che è la loro storia, i loro luoghi, le loro esperienze, per chi vorrà imparare a camminare un pochino con loro e poi ovviamente portare nella propria realtà anche tutto ciò che ha appreso. Molto dipende quindi sì dalle nostre capacità soggettive, questo è verissimo, nel senso che siamo tanti soggetti, per cui poi se ci perdiamo magari appunto nell'individualizzazione, poi si perde questa occasione che invece c'è qui di riuscire a tirare fuori lo spirito comune a tutti. Per cui, chiudendo un po' questa prima parte generale, adesso se vi va arriviamo proprio, scendiamo, appoggiamo, sentiamoci bene a sedere con i piedi qui per terra e proviamo a vedere che cosa può nascere semplicemente spontaneamente dal dialogo, dalle proposte che possono venire fuori, di altri incontri, di agende condivise, di altri momenti in cui rincontrarci, chi può consigliare a chi cosa fare e in che modo può essere fatto insieme. Non stiamo parlando di combattere, di fare le lotte degli altri, ma visto che siamo comunque tutti, tutte luchadores e luchadoras, abbiamo molto da imparare uno dagli altri. Quindi passerei da ora alla seconda parte di un'altra un'oretta e mezzo circa. Questo era proprio per fare il... per chiudere, ma c'è... Certo, no? Sì, bene, no, adesso infatti questi elementi non li può dare. Adesso ti passiamo tutto il microfono. Bene, non so chi c'era negli interventi. Appunto, io sono Franco, vengo da un minuscolo paesino del Monte Miata, versante grossetano, si chiama Monticello. Mi collego a quello che dicevano alcune delle ultime cose che sono state dette, non so i nomi, non me li ricordo, quindi io sto in un comitato di paese sono neanche 500 abitanti, quindi molto ovviamente qualcuno di voi abita in condomini con più gente. E in questo comitato, nato perché ci vogliono fare due, non una ma due centrali geotermiche, una a monte e una a valle, in una zona Lamiata dove ce n'è già parecchie di centrali e dove ce ne sono in cantiere un'altra trentina più o meno, 20, il comitato nasce quando scopriamo che vogliono fare queste due centrali ed è un comitato di paese. Quindi quando prima la compagna, parlando degli ambulatori popolari, diceva chi fai entrare, chi fai uscire, eccetera, eccetera, in questo comitato c'è il paese, tutto. Quindi con tutte le sue articolazioni umane, politiche, individuali, ed è nostra cura fare in modo che ci sia tutto il paese dentro il comitato. Questa cosa ci ha obbligato a ognuno di noi, a ogni singolo individuo che sta nel comitato, a lavorare su quello che ci tiene insieme e cercare di tenere lontano quello che ci divide, che è tantissimo. Nel comitato ci sono gli amici del santuario della Madonna di Val di Prada, e vi ho detto tutto, più altre varie soggettività che sono preziosissime. Perché? Perché se noi riusciamo, e sono 4 anni che stiamo riuscendo faticosissimamente a tenere bloccate questi progetti di centrale, perché c'è tutto il paese, tutte le associazioni, tutti i cittadini, dal prete al carabiniere a me. E questa cosa ci ha obbligato a ognuno di noi a reimparare a stare nella comunità. Stare in un collettivo è una cosa, stare in una comunità è un'altra. Ed è difficilissimo ed è faticosissimo, perché impari senza teorizzarlo, per esempio nel nostro caso, cos'è il metodo del consenso. Io ne ho sempre letto, quando ero giovane facevo parte anche di un gruppo che diceva di usare il metodo del consenso, poi non si usava spesso. Vabbè, facciamo questo, è il revival. Lì invece lo devi veramente usare. Perché? Perché se io voglio riuscire a lavorare insieme a Riccardo, che di lavoro fa il finanziere, è un cattolico semi-integralista e anche abbastanza di destra, tutte ce le ha, ed è cacciatore, però è prezioso che sia dentro il comitato, perché fa delle cose che io non potrei mai fare, e poi è un paesano ed è giusto che sia nel comitato ed è giusto che ci siano tutti. Io quando entro lì dentro devo svestirmi di tantissime cose, no? Sarebbe facilissimo dirgli vaffanculo fascista di merda fuori di qua, dopodiché chi ce l'ha più lungo butta fuori quell'altro e si rimane in tre, ok? E invece su 470 abitanti nel comitato, quando facciamo le cose, c'è quasi tutto il paese, ognuno con le sue capacità, ognuno con le sue possibilità. È faticosissimo, è difficilissimo, però il minuscolo paesino di neanche 500 abitanti sono 4 anni che tiene in scacco la regione toscana, che quella cazzo di centrale la vuole fare. In più, un po' per bravura, un po' per culo, un po' va a sapere per quale motivo, siamo riusciti ad avere un ottimo rapporto col sindaco, che è una sindaco del PD, che si è rovinata la carriera, non ce l'ha più ovviamente, perché ci appoggia. Piano piano siamo riusciti a farle cambiare posizione e ormai facciamo le cose insieme. Quando le arrivano le comunicazioni della regione ce le manda. Quando va dal suo avvocato, perché anche lei si è presa l'avvocato e anche lei farà ricorso, ci chiede di andare con lei. Allora, tutte queste cose qua, per me, individuo, che vengo da una storia politica di tutt'altra natura, eccetera, è stata una roba faticosissima. Però è nata una comunità vera. E finisco, chiudo, giuro. Ridendo e scherzando, qualche giorno fa, con un compagno del comitato, si diceva: meno male che è arrivata sta centrale, perché sto paese è rinato. cioè prima era un condominio invece che in verticale e in orizzontale, tu alle 9 di sera uscivi e vedevi tutte le lucine blu della televisione, e due settimane fa abbiamo fondato l'AMPI a Monticello, e ovviamente non con Riccardo, e abbiamo, è nata, c'è varie associazioni che stanno facendo un sacco di cose. Finisco l'ultima battuta, però secondo me è significativa. All'ultima riunione martedì parlavamo di oggi, si va, andiamo come comitato di Monticello o ci vado io per i cazzi miei? No, ma che cos'è, mi chiedeva un altro del comitato, cos'è sto Mondeggi? È un posto occupato. Ah, ma io nei posti occupati non ci vado, perché è legato. E gli dicevo, ma scusa Sergio, ma quando arriveranno con la ruspa e noi ci metteremo lì a bloccarli, non sarà illegale anche quello? Sì, ma noi lo facciamo perché vogliamo ma anche loro, cioè come fai a sapere te che quel posto è un posto diverso e sbagliato? Andiamo a vedere come è fatto, capiamo che cosa stanno facendo e poi decidiamo se ci va bene o non ci va bene, ma non lo puoi decidere prima perché la televisione ha sentito che quelli dei centri sociali si drogano e è peggio, no? Andiamo, e il percorso ed è vero. Però glielo dico più in là, Sergio. È una cosa per volta adesso. Però è proprio questo, e chiudo, il discorso del germoglio, no? Che a me lo condivido completamente. Cioè, ci si arriva piano piano, almeno noi. Quello che abbiamo preteso a tutti, con lui, con loro a Pitigliano, siamo da 3 anni che si lavora insieme. Quello che abbiamo sempre preteso, una cosa sola. Noi andiamo piano. Grazie. Adesso invece, invece adesso controtendenza, diminuiamo il tempo di interventi, quindi bisogna andare più veloce. No, comunque si passerà a 3 minuti, quindi insomma cerchiamo di questa seconda parte di essere un pochino più rapidi, ma non nel rispondere alle grosse domande, eccetera, perché quello che stavi dicendo te, anche dell'inclusione di persone che vengono da cammini diversi, infatti sarebbe stato bello, Sergio, ti avesse accompagnato alla fine, perché verrà, dai, verrà. Comunque adesso io prendo sempre esempi da quello che c'è intorno, alla natura e dagli alberi in particolar modo, e quindi mi immagino proprio in quel muro un enorme albero disegnato, e adesso noi qui siamo tutti le radici, ognuno di noi è la radice di queste soluzioni, la radice nel territorio, ci sentiamo ben radicati, perché sennò non lotteremmo per queste cose. Ora però iniziamo a parlare proprio della struttura, forse del tronco, che è fatto di proposte, fatto di legami, di mutualismi, e poi con molta calma ci saranno poi i rami, i frutti, eccetera. Quindi se vi piace fare un lavoro di immaginazione attiva, immaginiamoci adesso di lavorare su questo tronco, che è quella struttura che piano piano vorremmo darci, no? E, bene, quindi passiamo adesso a primi interventi da 3 minuti che sono in lista, grazie. Senti, velocemente, io prima di passare alla nuova... Volevo dare degli elementi rispetto a tutta la discussione di prima e anche, diciamo, al futuro prossimo della discussione. Allora, il mutualismo in Italia era molto forte e fu cancellato dal fascismo. Il fascismo ha cominciato così, è cresciuto così. Ma è stato anche cancellato dalla Seconda Internazionale e dalla Terza Internazionale per fare posto alla contraddizione capitale-lavoro e alla costruzione appunto di conflittualità. La Costituzione è questo, cioè la costruzione sociale nella Costituzione ci sta, e come, però di fatto quello che viene privilegiato dai settori sociali che si muovono è appunto la contraddizione, la conflittualità sul lavoro capitale del lavoro, non ci sono cazzi, cioè tutta la logica, la pratica legata anche di elaborazione teorica, legata all'autosufficienza, alla sufficienza dell'uomo, fu cancellata. E quindi noi risentiamo di quei, cioè in Italia la situazione sociale c'ha difficoltà a crescere, appunto, l'auto-organizzazione sociale, per questo, cioè non è un caso. E quindi avere questo elemento è fondamentale, insomma, cioè mettere sul tavolo questo elemento. Allora, penso sia fondamentale, e appunto lavorare in questa fase, nella fase prossima avventura, sulla costruzione sociale e sui processi sociali, come appunto negli anni 70, nel senso appunto c'è, cioè, tutto il discorso dell'autonomia, cioè era appunto un processo sociale grosso. Ed era a vari livelli, non era soltanto l'operaio massa o il comitato operaio di Porto Marghera, era anche interi settori sociali e politici e collettivi di base, cioè che si muovevano appunto a, la cosa è pur detta a un certo punto, il voto rosso. Bene, il voto rosso compì un sacco appunto di forze che non erano del Partito Comunista. E appunto c'è, cioè, tutto il discorso sui processi, cosa che appunto è da quegli anni che non si lavora più sui processi. Sì, sì, sì. Allora, questo è il lavoro appunto sulla costruzione sociale e sui processi, e in questa fase, nella fase prossima, per la costruzione di alternative sociali alla crisi, ma a livello molecolare e nel senso come è proposta ai settori sociali, alle varie comunità, appunto, in dire che il problema prossimo ventennio, cioè già da adesso e prossimo venturo sarà la crisi, e bisogna organizzarsi per costruire alternative. E quindi per di forni che diceva prima, ma è il minimo, ma ci stanno un sacco di cose da, appunto, su un livello di auto-organizzazione dal basso. Grazie. Allora, beh, io sono Irene e vabbè, non sto qua a farvi tutta la storia, comunque diciamo che sono qui come libera individualità, mi sto avvicinando a Mondeggi da qualche mese e gestisco un piccolo olivetto, quindi anche a livello di autoproduzione, così sono molto interessata a questo percorso. La questione che stiamo sollevando in questo momento secondo me è centrale, nel senso che nella mia esperienza politica finora ho trovato forte questo che definirei come questo dualismo tra l'individualismo e il collettivismo, l'organizzazione e dei moti più spontanei dell'anima, un modo anche diverso di vivere se stessi, credo. Quello che vorrei dire è che credo dobbiamo tutti un po' liberarci dalle paranoie totalitarie che sono, secondo me, frutto della nostra storia non solo recente. Prima si diceva un cambiamento sociale si ha quando c'è un'organizzazione che lo spinge. Allora, secondo me non è del tutto corretto, nel senso che un cambiamento sociale si ha quando ci sono delle organizzazioni che lo spingono, quando c'è un cambiamento della vita individuale, quando c'è un cambiamento nei modi di produrre, quando c'è un cambiamento nei modi di concepire se stessi, il rapporto con gli altri, quando cambia tutto, quando tutte le sfere del nostro essere umani subiscono una rivoluzione in contemporanea, allora si ha un cambiamento sociale. Per cui quello che poniamo, secondo me, è un falso problema. Non si deve vedere un lavoro individuale o un lavoro collettivo come due cose che vanno in conflitto tra di loro. Quello che bisognerebbe fare, a mio avviso, è cercare di capire cosa vuol dire accettare le differenze e farne tesoro, perché siamo umani e abbiamo dei limiti fisici e temporali precisi, e non tutti possono occuparsi di tutto, e invece dobbiamo occuparci di tutto collettivamente. Quindi non è in contraddizione il fatto che ci siano delle persone che lavorano in organizzazione, anche magari organizzata in modo piramidale per essere più efficiente, piuttosto che ci siano libere individualità, piuttosto che ci siano persone che si occupano di un rapporto con le istituzioni e contemporaneamente altre che portano invece magari avanti delle pratiche conflittuali o di rivolta totale. Quello su cui secondo me dovremmo proprio focalizzarci e cercare di proteggerci è appunto i tentativi di omologazione totalitaria, i tentativi di dire questa è la strada giusta e dobbiamo fare tutti così. Noi non lo sappiamo, nessuno di noi lo sa qual è la strada giusta e quello che dobbiamo fare. Ognuno di noi ha un vissuto, ognuno di noi è più bravo a fare certe cose e non le riescono altre. Ognuno di noi è se stesso con tutta la sua complessità, e quello che dovremo fare, secondo me, è cercare di darci solidarietà, creare rispetto, creare comprensione e creare connessione tra tutte queste cose, non dire che una cosa... Sì, ho finito. Che una cosa è migliore dell'altra, o tutti appunto dobbiamo fare una cosa piuttosto che un'altra. Grazie. Ribadisco, scusate, che per favore gli interventi, ognuno si tenga il cellulare o l'orologio, quello che vuole, sott'occhio, e non aspetti che invitiamo noi a stringere. Saranno 3 minuti, e questo nel rispetto della parola di tutti, nel rispetto del dinamismo e della praticità. Infatti vorremmo adesso che si facessero proposte, e quindi se uno vuol fare delle riflessioni, che siano però in funzione della proposta che uno fa. Quindi l'ultima ora, oretta e mezzo prima di andare a mangiare è così. Ciao a tutti, sarò brevissimo. Mi presento da singolo, e tra l'altro chi mi conosce mi infamerà perché parlo sempre della stessa cosa, però uno strumento, per l'appunto, che secondo me purtroppo viene costantemente sottovalutato sono gli strumenti comunicativi. Perché noi qui siamo riuniti perché durante le nostre vite abbiamo vissuto dei momenti rivoluzionari, chi con l'occupazione di una scuola, chi andando in Valsusa a lottare, insomma, che ci hanno creato questo fuoco dentro, ce l'hanno acceso, ci hanno appicciato sta miccia e non si spegnerà mai più. È bellissima questa cosa, e abbiamo vissuto tutti i momenti di amore, di gioia, grazie a appunto questi momenti rivoluzionari che ognuno nel suo... in mille modi diversi si è vissuto. Quindi, secondo me, al fine di moltiplicare all'infinito questi momenti rivoluzionari, è necessario trovare una sintesi comunicativa efficace, accattivante, che alcune persone chiamano anche immaginario, però non mi piace definirla così. Semplicemente una sintesi comunicativa che arrivi a raccontare in modo efficiente cos'è un'assemblea come questa, cos'è una realtà come Mondeggi, cos'è uno squat come Viale Corsica, cos'è questo, quest'altro. E Quindi appunto comunicare la bellezza dell'auto-organizzazione in modo non noioso, perché io una cosa che noto è che a livello, cioè mentre siamo fra noi lo sentiamo questo potere, questo fuochi che ardono dentro di noi, però poi nel momento di comunicarlo all'esterno ce ne scordiamo e questi strumenti comunicativi vengono sottovalutati. Quindi un invito a non sottovalutarli e a utilizzarli in tutte le sue forme, assolutamente, dall'arte alla poesia, alla grafica, eccetera. E un'altra poi riflessione ulteriore, che è lo step 2.0, è che mi piacerebbe, cioè è importante questi strumenti utilizzarli sia in forma, cioè bisogna stare al passo con i tempi, quindi sia in forma virtuale da una parte, però nello stesso identico modo sia in forma fisica, quindi con quelle che un tempo erano le riviste di movimento, con i poster, con gli adesivi, bombardando queste città grigie, creando degli spazi belli, colorati, in cui la gente semplicemente si debba avvicinare, non si deve sorbire un pippone di 3 ore per capire quanto è bello auto-organizzarsi, non ci deve stare 2 mesi, ma vedendo un cazzo di centro sociale dipinto per bene, eccetera, insomma, capisca che questi non sono posti dove la gente va solo a drogarsi. Poi un esempio pratico è un'uscita col botto. Vi pongo solo una domanda semplicissima. Perché se domani toccano XM, noi prendiamo il primo treno e siamo tutti a Bologna e bruciamo la città, invece purtroppo se toccano un qualche altro posto, magari che esiste da 20 anni, a Firenze questo non avviene? Perché per queste cazzo di mandarine, cioè, capito? E quindi utilizziamoli in modo pratico, efficiente, e capiamoli e troviamo una sintesi artistica, grafica, come volete, sia fisica che virtuale. Ciao, io sono Valentina. Volevo dire brevemente quanto condivido quanto si è già detto riguardo al mettere l'accento sul positivismo, diciamolo, chiamiamolo così, nel senso che, per esempio, io personalmente ho sempre fatto un po' fatica a sentirmi effettivamente coinvolta in movimenti molto portati anche giustamente al conflitto, all'aggressività contro tutta una serie di scempi che ci circondano e continuano a circondarci. Però tutto sommato poi ho sempre condiviso in realtà di questi gruppi, collettivi, movimenti, case occupate, molti di quelli che sono in realtà i progetti positivi che portano avanti quotidianamente, al di là magari del momento del corteo, del conflitto. E penso che sia abbastanza fondamentale cercare gli strumenti per coinvolgere il più possibile la gente, anche le persone un po' diverse da noi, che magari non hanno gli stessi strumenti, non hanno avuto determinate esperienze, puntando su delle cose concrete e positive. C'è tantissima negatività, va tutto sempre male, ma in realtà siamo circondati anche da questi germogli che alimentiamo quotidianamente, che sono il nostro punto di forza, secondo me, anche proprio per moltiplicarli e far sì che sempre più persone si rendano conto che ci sono delle cose concrete in Italia che stanno avvenendo e sono bellissime, ed è per questo che siamo anche qua. Una cosa che mi veniva in mente da condividere, secondo me, è l'importanza di unire il mondo urbano con il mondo rurale, ancora di più con strumenti concreti. Ad esempio, mi è venuto in mente una modalità che probabilmente voi conoscerete, che secondo me si può sviluppare ancora meglio, che è quella di creare degli strumenti, delle strutture di supporto alle produzioni agricole, quindi in modo un po' più, diciamo, strutturato, quindi anche che un gruppo di famiglie, un gruppo di cittadini in città, per far sì che si avvicinano sempre di più alla realtà del clima, dell'ambiente, delle difficoltà dell'agricoltura, a investire un tot di tempo, soldi, quello che si vuole, si può investire a secondo dei territori, in supportare quello che può essere la realtà come Mondeggi, che produce e poi appunto anche condividerne i frutti a vari livelli, quindi non solo alla fine con il frutto finale, ma proprio dall'inizio, dalla progettazione ai semi, ai lavori nei campi, in modo da accorciare un po' le distanze tra il mondo urbano e rurale, e magari far sì che poi anche nelle persone in città si sviluppino più voglia di coinvolgersi, di attivarsi ancora di più. Grazie. Sì, io volevo riprendere un attimo l'intervento sia di Franco sia di Valentina, dicendo che appunto qui a Mondeggi tutto quello che vedete qua intorno, gli oliveti, tutti i progetti agricoli, eccetera, eccetera, eccetera, che è il progetto sulla salute, sulla formazione, sono stati possibili grazie alla costruzione di una comunità che è cominciata anche prima dell'occupazione, da più di 4 anni. Quindi secondo me la costruzione di comunità è il primo passo imprescindibile per cominciare a metterci in rete, per cominciare a fare politica con un paradigma diverso. Prima stavamo parlando quali paradigmi diversi possiamo strutturare nel mondo nuovo, nella costruzione di questo mondo nuovo che ci immaginiamo. La comunità, secondo noi, è il primo passo. E per passare alle una proposta pratica di quello che possiamo offrire noi, con tutta l'umiltà del caso, sono le nostre competenze sulle quali ci siamo formati durante questi anni, e quindi invitiamo a tutte le comunità che si stanno sviluppando nei vostri territori, che volete far nascere o che già si sono sviluppate, a partecipare come parte attiva, anche a venire qua. Noi da gennaio avvieremo, è già stato fatto per 2 anni di fila, la scuola contadina. Quindi se voi avete voglia, avete interesse di portare un po' di città in campagna e poi un po' di campagna in città, come viene fatto anche nel lavoro delle comunità, che come abbiamo visto noi in Messico e sicuramente in altri territori, siete tutte benvenute. Noi insomma avremo voglia di conoscervi meglio e di scambiarci informazioni, pratiche, anche attraverso appunto l'ospitalità nostra, e poi speriamo anche la vostra. Quindi mettiamo a disposizione questo spazio, che è la scuola contadina, in cui appunto chi vuole partecipare è benvenuto, e se si vuole strutturare poi un discorso più preciso a proposito di questo, possiamo farlo insieme. Io pensavo a tre strumenti trasversali, mi sembra, che partono appunto anche dalla, cioè, dalla nostra esperienza nell'ambito della salute. Il passaggio, il primo è stato il passaggio dalla relazione medico-paziente come relazione gerarchica di sapere esperto, cioè, che in qualche modo determina il percorso di sovradeterminazione a esperienze, diciamo condivisione di esperienze, di partire da sé, partire dal vissuto, di, che prendono la forma delle autoinchieste nei collettivi transfemministi e queer o di gruppi di riflessione sul vissuto di sofferenza o di altre tematiche che partono appunto da, dall'esperienza del, della persona. E questo però secondo me, cioè per me questo è centrale, perché si riallaccia al discorso di prima anche sulla processualità, cioè che tutti noi facciamo riferimento comunque ai servizi quando riguarda la salute in maniera molto, ma non solo, comunque molto diretta, e il pronto soccorso è importante che ci sia, tante altre esperienze istituzionalizzate ci sono, se vogliamo andare verso una direzione di trasformazione le esperienze di autogestione coesistono con altre esperienze istituzionalizzate e secondo me questo si può guardare solo in un'ottica di tempo ma di processualità, cioè in cui non c'è una sostituzione, non c'è un cioè teniamole insieme e in un'ottica però di contaminazione anche di messa in discussione. E questo ha a che fare con, nel caso nostro, con la relazione con tutto il sistema di welfare, di servizi che è poi altamente gerarchico di potere, eccetera, eccetera. E l'altro aspetto è quello degli strumenti di facilitazione, cioè questo non può convivere, cioè non può esistere se non ci si dà degli strumenti di facilitazione di organizzazione appunto fondati sul metodo del consenso, fondati su la non verbalità anche, quindi strumenti di sperimentazione di pratiche decisionali non necessariamente verbali, più inclusive e orizzontali. E un po' quindi, cioè, mi sembrava che ci fossero questi tre, cioè il discorso del partire da sé, il discorso della facilitazione e organizzazione e l'aspetto di processualità come strumento anche, di non ragionare sempre in un'ottica binaria, proprio perché poi nel concreto accade quello che, cioè, veniva raccontato prima un po', credo, ovunque. Inserisco un secondo, vi andrebbe quindi di organizzare un pomeriggio, una giornata dove raccontate più specificatamente queste esperienze? Questa era una delle mie proposte. E l'altra proposta che mi viene in mente da quello che dicevate tra città e campagna è magari una due giorni, proprio un primo giorno in città, il secondo in campagna, dove si uniscano le realtà, i collettivi urbani lì a Firenze e qui a Mondeggi, però dove si parla di come le cose che partono da qui arrivano là e quindi come poi lì avviene il mercato o avviene il momento di diffusione verso l'esterno, avviene il momento di contatto, e invece poi qua è il momento dove c'è la terra e la prima comunità. Quindi anche questa la metterei tra le proposte, poi vedremo. Dico una cosa rapida, per l'esperienza in cui vivo, quindi qua, e un altro paio in cui mi sono ritrovato a partecipare, sembra comunque sempre di partire da, per arrivare alla creazione di relazioni e di contatto e quindi pian piano di comunità, che una base di partenza siano i bisogni, quindi di conseguenza i bisogni sono tanti e in tanti posti si modulano e non sono sempre per forza gli stessi, però alcuni sono basilari. Come comunità non si arriva normalmente, cioè come comunità, ma anche a livello di ragionamento in collettivi che magari no, non si aprono più di tanto, cioè la soddisfazione dei bisogni è sempre parziale. Però secondo me, già da, prendendo quelli come spunto, più che come, come è stato anche detto prima, di frapporsi a delle negatività che ci sono nei territori, ma partire da, dai bisogni aiuta a ragionare insieme poi per creare un qualcosa, come stato di invito per tematico per questi giorni, quindi di riuscire a fare dei percorsi assieme tra i vari posti e varie comunità. Già all'interno della comunità aiuta in tal senso a rafforzarsi e poi poter fare dei percorsi assieme, quindi ragionare sui bisogni. E questa non era stato magari specificato più di tanto. Faccio un invito, una cosa che non c'entra magari un granché in questo momento, però colgo l'occasione per ricordare, noi ad aprile faremo 3 giorni di incontro di Genuino Clandestino in qua. Genuino Clandestino si basa su dei nodi territoriali e a ognuno è dato poi di ci troviamo ogni 6 mesi per riuscire a fare dei ragionamenti assieme dai vari territori. In aprile ci sarà un'occasione in qua, quindi vi invito magari per entrare in contatto con le varie comunità di zapatisti italici in un'occasione sola. Tra l'altro, se ci darete una mano partecipando, visto che vorremmo scendere in città come i barbari a dire la nostra, e prenderemo l'occasione in quei 3 giorni, quindi questo è un momento magari in cui sperimentarsi anche per le strade. Non è che vi voglio mettere come se succedesse chissà cosa, però insomma un momento per viversi anche al di fuori di un'assemblea e vedere un po' le pratiche nel come si sviluppano in occasioni di richiamo, ecco, di questo genere. Ciao a tutti e tutte, cerco di essere comprensibile, breve. Io penso invece che non abbiamo molto tempo, questo significa che va bene riflettere, va bene tutto, ma dobbiamo realmente cercare di organizzarsi il più velocemente possibile. Il dato di fatto è che in 50 anni, 60 anni, quello che sarà, l'ambiente di fatto andrà sempre più devastato e distrutto e non potremo più tornare indietro, quindi o c'è un cambiamento radicale e concreto adesso, oppure semplicemente non c'è più futuro. Quindi la mia voglia di dire dobbiamo essere veloci è proprio data dalla necessità dell'ambiente in cui viviamo. Ciò per dire che la sensazione che manchi molto nelle città un discorso sull'ecologia radicale, quindi tutta questa parte, quello che si sta facendo qua infatti è bellissimo, ma cercare di creare una relazione sempre più forte e portare avanti dei discorsi in tutte le città, in tutti gli spazi da cui veniamo, che viviamo, che portino a riflettere su come organizzarsi, ma veramente su come rivoluzionarci in un'ottica di ecologia radicale, penso sia fondamentale. E soprattutto penso che viviamo in un sistema che, come è ovvio, si fa sempre più totalizzante e capillare. Un sistema che non ci lascia spazio, anche se in realtà lascia dei vuoti. Questi vuoti che cerchiamo di occupare nelle città come nelle campagne. Però questo sistema è anche appunto molto, essendo così totalizzante, deve essere lottato, deve essere combattuto. Quindi non so come spiegarlo. Da una parte credo il seccedere, il cercare di costruire realtà di questo tipo è fondamentale, ma io vorrei anche poi affrontare delle riflessioni su come lottare da un punto di vista più pratico, più concreto e anche materiale, quindi tutto questo discorso qua, non so se è stato chiaro. Quindi questa era una cosa. Un'altra cosa che invece più da un punto di vista organizzativo, quindi di proposte concrete che mi viene da fare, appunto la sensazione che in questo sistema sempre più totalizzante c'è una cosa che manca molto, invece proprio l'organizzazione tra tutte quelle realtà, che io non credo che ci sia bisogno di un'ideologia da seguire, non voglio nessun libretto rosso, verde o giallo che mi dice come organizzarmi, cosa fare e cosa devo pensare. Quindi ognuno, ogni realtà, ogni comunità deve cercare di organizzarsi e pensare quello che vuole, quello che sceglie. È chiaro a tutti che siamo anti qualcosa, quindi che sappiamo cosa non vogliamo. Forse non sappiamo cosa vogliamo, ma sappiamo più o meno che cosa non vogliamo. Tutte queste realtà però, nel momento in cui vengono represse, vengono attaccate, si ritrovano spesso sole e non riescono a ribattere a un potere che è molto più forte di loro. E questa è una cosa che mi viene da, cioè, boh, che leggo in tutte le città italiane adesso, gli spazi che vengono sgomberati, le comunità che vengono distrutte a Firenze, Bologna, a Torino, e quindi è un dirsi, dovremmo mettere da parte a volte le differenze ideologiche, le differenze di aree, per cercare di almeno mettersi insieme nel momento in cui si viene repressi, si viene repressi. Quindi anche una riflessione su questo e dire come possiamo ribattere nel momento in cui controbattere e organizzarci nel momento in cui invece tutte queste comunità vengono attaccate. Era il secondo punto. L'unica cosa che invece voglio dire ancora sull'informazione, che io sono molto d'accordo sul fatto che manca dei canali informativi, dei canali veramente differenti e che non siano divisi. L'esperienza in Francia c'è, cioè, ad esempio, un canale informativo che si chiama Indie Media, che riesce più o meno a raccogliere tutti i movimenti, tutti, forse una parola grossa, ma che cerca di dare uno sguardo diverso e di comunicare ciò che ogni realtà, ogni spazio, ogni comunità auto-organizzata, autogestita porta avanti. Questa è una cosa che secondo me è molto interessante, molto importante, e che in Italia manca, e sarebbe anche interessante affrontare una discussione su questo tipo. Grazie, io sono Erika, ciao a tutti e tutte, e su quello che ho appena finito di dire, non mi ricordo più il tuo nome, è Monica, e vi volevo portare un attimo indietro nel tempo all'incontro primaverile di Genuino Clandestino fatto a Bologna alla BA, in cui il gruppo del tavolo tematico sull'autoformazione si era messo a ragionare su come portare avanti un discorso di autoformazione e di creare una rete di autoformazione in Italia. A questo punto eravamo arrivati a capire che la cosa che ci premeva di più era mettere insieme i bisogni e le competenze di tutti noi, che sono la base per portare avanti un discorso costruttivo e anche di autogestione, e poi riportare appunto le esperienze di tutti e tutte, di anche chi non è qui in Italia, e connetterlo con l'autoformazione. Si era pensato di mettere in piedi una piattaforma su cui condividere tutte queste cose. Poi ovviamente un piccolo gruppo fa poco niente, ci è piaciuto molto il discorso che era venuto fuori e le proposte che erano venute fuori, ma non si era portato poi avanti. Non lo so, si può riproporre come strumento di connessione, di rete per tutte queste cose, in cui inserire appunto i bisogni, le competenze, le esperienze e i momenti di autoformazione in tutta Italia, così che ci si possa realmente rendere conto di che cosa stiamo facendo e di che cosa ancora si può fare tra tutti quanti noi. cazzo hai detto esattamente quello che volevo dire. Sono Mattia. Sì, più o meno era quello. Io sono in Italia da un anno e mi rendo conto che ci sono così tante realtà che non conosco, che ogni volta trovo nuovi spunti, nuove cose. Sarebbe bellissima una piattaforma dove ogni collettivo mette le sue competenze, se c'è al legale, alla salute, al contadino, che possa mettere su quello che può dare alla comunità. Una mappa, te vedi molto specificamente dove tu sei, vedi tutti i collettivi attivi attorno a te e dici, va, boia, ci sono sti qua che stanno facendo questo. E basta. No, è che venire. Ciao a tutti e ciao a tutte, io vengo da Bologna, dalla mensa popolare The Rich, un collettivo che da 3-4 anni fa intervento su, dentro, contro il cibo e contro la città del cibo, e ho perso la prima mezz'oretta di assemblea, quindi spero di non dire delle robe che si sono già dette. L'impressione che ho un po' in questi momenti è che ci sia tanta voglia ed energia di guardare a noi e di costruire il discorso intorno a quello, alle nostre forme di organizzazione, a come possiamo migliorarle, espanderle, renderle riproducibili. E mi sembra un discorso molto interessante, come lo è quello di pensare alla comunità come spazio, come forma di organizzazione, come valore da mettere al centro delle nostre pratiche. Quello che un pochettino anche viene naturale quando ci si trova in un posto bello come Mondeggi, in una comunità, no, che si autogestisce, auto-organizza e che è anche un modello per tanti e tante di noi che vengono da fuori rispetto all'auto-organizzazione e alla gestione comune del territorio. Quello che mi viene in mente è che però le nostre città sono piene di merda, e sono piene di merda che ha un peso specifico notevole, molto anche superiore rispetto a quello che noi riusciamo a produrre nella nostra organizzazione, nelle nostre comunità, e un po' il rischio è quello di guardare a noi stessi e di dimenticare che poi c'è un mondo fuori dalle nostre assemblee che è fatto di sfruttamento, che è fatto di povertà e che in qualche modo ci riguarda, riguarda tutti e tutte noi, e contro questo mondo abbiamo da costruire tanto. Faccio un esempio perché vengo da Bologna, così provo anche andare rispetto alle proposte avanti e non fare soltanto analisi. Il mondo contadino, di cui tanti e tanti di noi parlano e che a Mondeggi ha trovato un polo di addensamento, di auto-organizzazione e di conflitto, è come tante altre cose dentro un continuo processo di rivalorizzazione da parte del capitale, no? C'è una pratica così genuina come quella di coltivare la terra, è in questo momento un modo per fare nuovo valore per il capitalismo da diversi anni in Italia, no? Il verde, il capitalismo green, il capitalismo sostenibile sono le parole d'ordine con cui si rigenera in questo momento il capitale, no? E con cui riesce a mettere a valore le nostre vite, superando magari, no, un'ottica industriale e portando appunto a valore questa specificità che è nostra, quella della sostenibilità, del rapporto con la terra, diventa un modo per fare soldi. A Bologna c'è stato aperto da 8 giorni, da di meno, da 4 giorni, aperto la fabbrica italiana contadina, che è un polo di 100.000 metri quadrati regalato a Farinetti per costruire il più grande simulacro del mondo contadino dentro la città, dentro un capannone in mezzo al cemento. Questa è una roba che secondo me ci riguarda, ma non soltanto riguarda noi che siamo a Bologna, perché ce lo troviamo a pochi passi di distanza e perché porterà un indotto di sfruttamento ovviamente considerevole in città, e riguarderà tante e tante di noi che andranno magari a lavorarci, ma riguarda tutti e tutte coloro che con la terra pensano di costruire un rapporto nuovo e che quella roba devono evidentemente viverla come un nemico e cominciare a pensare anche come si può attaccare, perché se pensiamo soltanto a noi il rischio è quello di generare delle isole felici che però più che riprodursi non fanno male a nessuno, no? Abbiamo un mostro come Italy, come questa nuova cattedrale di profitto costruita che si chiama Fabbrica Italiana Contadina, un nome che ha già dell'assurdo dentro di sé, e io credo che come comunità in lotta dobbiamo cominciare a pensare, visto che non è Expo, non andrà via tra 6 mesi, ma rimarrà come cattedrale stabile nella periferia bolognese, penso che quello sia una roba su cui da ora in avanti collettivamente dobbiamo sforzarci di ragionare e anche di provare ad attaccarlo, perché è un discorso che diventerà riproducibile anche altrove molto presto. Quindi vabbè, l'invito è prima o poi vediamoci a Bologna, prima o poi cominciamo a pensare anche a Farinetti, a Italia, a questa fabbrica italiana contadina come un nemico e con qualcosa contro cui costruire campagne e vertenze. Bonjour, du coup je vais parler en français et Nina va traduire. Du coup je m'appelle Talim, je vis dans un endroit dans le nord de la France qui est un lieu occupé contre un projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Bure. Allora, vi saluto a tutti, si chiama Talim, lei vive in una città nel nord della Francia, si chiama Bure, ed è dove vi è un progetto di seppellimento delle scorie nucleari. Et du coup, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par rapport aux outils de médias. Aux outils de médias. D'automédias. Ah, voleva rispondere a ciò che è stato detto finora riguardo alla comunicazione ai media. Agli strumenti. Ah, scusa, strumenti. En fait, on a dû apprendre de force par rapport à la répression à se doter d'outils efficaces. A tal riguardo è necessario dotarsi di strumenti efficaci. Et du coup, on a appris de nos erreurs par rapport, par exemple, à des perquisitions qui ont eu lieu et qui nous ont volé tout le matériel informatique où étaient enregistrés les outils de transmission. Mi riferisco faccio un esempio in particolare, cioè quando ci hanno fatto una perquisizione su tutte quelle che erano i nostri materiali informatici e quindi ci hanno rubato tutto quello che noi avevamo messo all'interno di questi database. Du coup, ça vous a permis de repenser à un truc plus commun, de réfléchir à une tâche, donc par exemple là l'automédia. Et aussi sa transmission de façon sécurisée en même temps. Enfin, dans le même, Quindi questo ci ha portato a pensare anche di nuovo a quello che è la gestione dei media e alla loro trasmissione in maniera più sicura. Et du coup, il y a aussi on utilise aussi pas mal, parce que l'endroit où on vit est assez éclaté, en fait, il y a des archipels. De lieux de vie en fait, mais il y a quand même des choses qui nous rassemblent et qui sont collectivisées, notamment tout ce qui est alimentaire. Nel nostro territorio ci sono altri luoghi che sono simili, sparsi nel territorio, ma simili a quello che facciamo noi, e in particolare l'alimentaire, je sais pas compris. In particolare un posto dove vengono stoccati i prodotti alimentari. Et du coup, ce qui est aussi source de gros conflits par rapport à des idées différentes d'agriculture, de moyens de production, puisqu'on a tous et toutes des idées différentes et des réalités, on partage des réalités différentes sur ces questions. E quindi ci sono anche delle conflittualità rispetto a quello che è i modi di produzione e la produzione in generale e di tutti questi luoghi sparsi sul territorio. Mais du coup, le fait de fonctionner en assemblée, ça a permis de poser des bases claires, et notamment dans les lieux collectifs, d'avoir une nourriture exclusivement végane. Però questo ci ha permesso comunque di avere delle basi solide, consolidate, e in particolare quello di avere in ogni luogo un'alimentazione vegana autoprodotta. Ouais. Après, on n'est pas autonome à 100%, mais on tend à l'être, enfin, on essaye de l'être. E poi non siamo autosufficienti al 100%, però cerchiamo di esserlo. E du coup, je vais aussi. Alors, je faisais, c'est un peu confus, parce que du coup, j'essaye de répondre à des trucs qui ont été dit avant. E adesso forse sarò un po' confusa, perché cerco di rispondere a tante cose che sono state dette prima. E du coup, je voulais aussi rebondir sur les liens avec les paysans. In particolare per quel che riguarda il rapporto con le contadine e i contadini. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, on est nombreux et nombreuses à venir de la ville et à découvrir la campagne. Una buona parte di noi viene dalla città e ha riscoperto la campagna. du coup, ce qui crée des conflits sur des visions différentes, enfin un rapport à la Terre qui est très différent. E quindi ci sono dei rapporti con la Terra che sono molto diversi gli uni dagli altri e che crea dei conflitti. Bah, notamment sur l'éthique de libération animale. In particolare per quel che riguarda il discorso di liberazione animale. Mais du coup, bah, encore une fois, c'est un peu triste de le dire, mais encore une fois, ce qui nous rassemble, c'est la répression, en fait. E forse è un po' triste da dire, però ancora una volta ciò che unisce è la repressione. Et là, là-dessus, on arrive à dégager des moments communs, notamment avec les associations qui sont, elles, plus, qui sont sur cette lutte depuis 20 ans, qui connaissent bien la lutte et qui sont plus dans un fonctionnement citoyeniste. E in particolare rispetto appunto alla repressione parliamo anche con delle altre associazioni più cittadiniste che però sono all'interno di questo discorso da più di 20 anni. Mais du coup qui sont eux par contre sur enfin qui nous apprennent beaucoup sur le rapport à cette géographie qu'on apprend à habiter en fait et ça prend du temps. È un processo lento perché dall'altra parte queste associazioni cittadiniste che ci sono da più di 20 anni ci insegnano molto sul territorio che abitano ed è questo è un processo molto lento. Je pense que j'ai tout dit. È tutto. Ma io ho una cosa brevissima, visto che era il momento delle proposte o comunque di riempire di contenuti questo tronco. Che prima ha espresso secondo me molto bene con la metafora dell'albero. Noi appunto non abbiamo esperienza contadina, anche se in verità poi nei nostri 5 anni di percorso abbiamo pure condiviso degli orti urbani a Fiumicino. Noi però abbiamo esperienza di mare, essendo un'occupazione che nasce appunto in un luogo proprio sull'acqua, come potete vedere dalle foto poi che abbiamo portato, e vi invitiamo, visto che si deve comunque mettere la carne sul fuoco senza che nessuno si offenda, insomma. Noi quello che noi stiamo progettando da un anno, siamo riusciti quest'anno ad avere degli scafi, delle barche, delle imbarcazioni che siamo anche, alcune le abbiamo autorecuperate, cioè ci stiamo autoformando sulla nautica e sulla marineria, diciamo. Da un po' di anni abbiamo cercato di pensare come fare a uscire sul territorio anche in relazione proprio al mare. E dunque abbiamo messo in piedi, grazie all'ausilio di alcuni compagni nostri più grandi di me e più competenti ovviamente di me, di noi del collettivo stretto, dei compagni marinai o comunque dei velisti esperti che metteranno a nostra disposizione, dunque anche a vostra disposizione, faremo un percorso di scuola vela popolare chiamato Velisti Antagonisti. Abbiamo già fondato un'associazione sportiva. Lo dico amaramente perché noi ci piaceva rimanere comunque un collettivo e mai darsi, cioè comunque il collettivo è rimasto una cosa differente. Abbiamo fondato questa associazione sportiva con questo gruppo appunto di laboratorio di percorso e partirà proprio una cosa che darà anche degli strumenti formativi che poi riproducibili nella società. Cioè questi corsi saranno comunque ufficializzati in qualche modo, è un'associazione affiliata a WISP che abbiamo creato. Dunque il progetto partirà di preciso intorno a maggio, ancora non abbiamo definito le date e le modalità, diciamo, di come svolgere questa, cioè al pubblico non l'abbiamo ancora espresso, dunque vi informeremo di questo, grazie ad oggi posso raccontarvi di questo e mi fa piacere che ci avete dato la possibilità di imparare qua da voi, dunque ringrazio Mondeggi per il discorso della scuola contadina, che sicuramente qualcuno di noi riporteremo tutto quello che oggi abbiamo sentito, anche le altre proposte, anche, ci sono state anche altre proposte di scambio, e secondo me è proprio quello che, ritornando al discorso proprio iniziale, che si parla di come superare questo steccato facendo e condividendo le autonomie e le competenze, secondo me si esce dagli steccati, insomma. Allora, a parte tutti al mare a maggio, via Venezia. Allora, riguardando il discorso, la proposta sulla piattaforma, io l'unica cosa che volevo dire è che a settembre c'è stato all'ex OPG una 3 giorni molto molto bella che è finita con una stessa proposta di piattaforma che stanno creando. Quindi è partito il giorno dopo, inizialmente proprio per comunicazione base, un gruppo Facebook che si chiama Potere al Popolo, dove la gente sta postando roba, quindi trovatevelo. E di qui a poco loro stanno lavorando con dei gruppi di informatici hacker che conoscevano per mettere su una piattaforma proprio di condivisione delle esperienze e contaminazione e comunicazione verso l'esterno. Quello che hanno fatto finora, da quello che ho capito, è crearlo per divisioni tematiche, quindi ci sarà una sezione sul lavoro, una sezione sulla sanità, una sezione sulle palestre popolari, sulle cucine, e c'hanno un buco sull'agricoltura. Quindi secondo me se sentiamo in assemblea che l'idea della piattaforma esce, forse ha già senso contattare loro e tentare da forza una piattaforma che già si sta creando, piuttosto che crearne un'altra parallela. Era semplicemente una informazione. Potere al Popolo. Allora, l'hanno messa adesso su Facebook per iniziare, dove la gente posta roba, e da qui stanno lavorando per il sito vero e proprio, che dovrà essere aperta la piattaforma di qui a poco. Noi volevamo invitare per continuare con le proposte, e soprattutto anche le compagne di Gruppa, se dico bene il nome di questa esperienza, a una cosa che abbiamo organizzato da parecchio tempo, che è un incontro, che è il proseguimento di un incontro globale che noi abbiamo lanciato in Chiapas quest'anno. Magari alcune di voi l'avranno anche seguito. Si è chiamato Incontro per la Resistenza Globale Autonoma, e si è svolto in Chiapas all'Unitierra, al Sidessi di San Cristóbal de las Casas, dove sono confluite e si sono riunite tantissime organizzazioni contadine, ma anche la Brigada Callejera, le lavoratrici sessuali di Città del Messico autonome, Guarani, Mapuche, hanno partecipato ai compagni Notav, che ci hanno mandato un video, i compagni della SAD, insomma, tantissime organizzazioni hanno partecipato in questo incontro globale. E da questo momento che abbiamo avuto, dal vederci insieme con tante persone con cui sentivamo prima di tutto noi un'affinità, anche una cosa bella, un desiderio di vedersi anche, non so, di mangiare insieme, andare a prendersi una birra, ecco, da tutti questi tipi di affinità, sia ideologiche sia di volersi conoscere proprio come persona, è nato questo incontro. È stata una roba in realtà abbastanza grande. E da questo ne è nata la volontà di proporre, di convocarne un altro, che è il piccolo lavoro che noi proviamo a fare come nodo, è proprio questo, di fare da ponte per riuscire ad avere momenti più e momenti di incontro. E abbiamo lanciato un paio di mesi fa un incontro per la salute autonoma che si svolgerà a Napoli il 3 dicembre. E noi come collettivo siamo si svolgerà nel poliambulatorio dell'ex OPC. Noi come collettivo siamo un collettivo che siamo aderenti alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona, e questa aderenza ci porta a non camminare percorsi partitici. Per cui vi invitiamo a questo incontro, e vi invitiamo ad alimentarlo. E parteciperanno compagni e compagne che hanno già partecipato in quello precedente a San Cristóbal, dove invece si è parlato di resistenza e di difesa del territorio. Questo sarà sulla salute. Tra l'altro siamo stati in Val di Susa una settimana fa e abbiamo invitato anche le compagne lì delle esperienze che hanno sulla salute a venire, penso che verranno. E insomma, volevamo invitarvi. E dico questo perché da questo incontro che noi abbiamo fatto in Messico, che sta poi proseguendo, ecco, è nata un sito che si chiama Resistenza Globale Autonoma, dove sono state caricate tutte tutte le partecipazioni a questi due giorni di incontro e di a questi lavori, no, che abbiamo fatto a questa due giorni. E vi invitiamo, ecco, ad andarlo a vedere e ad alimentare anche questa, che non è una piattaforma, ma un desiderio di condividere quello che viene fuori da queste giornate, a non perderlo, che se ne faccia memoria. Sì, visto che si parlava di proposte, allora ho ripreso la parola. E, perché vabbè, abbiamo sentito che sicuramente c'è un desiderio di ritorno alla natura e anche a dei ritmi, a delle dinamiche più naturali e ad un'opposizione totale alle problematicità ambientali e climatiche, però molto spesso si è parlato di cambiare il sistema, distruggere il sistema, opporci al sistema, opporre qualcosa al sistema. Io in prima persona, però lo abbiamo pensato anche dove vivo, ecco, a Roma, con sia i ragazzi del collettivo No Porto, sia con dei ragazzi di uno squat che si chiama ZK, che per noi distruggere il sistema, o almeno decostruirlo per costruirne uno nuovo, significa anche opporsi al patriarcato, perché tutti quanti sappiamo che il binarismo che è partito con appunto la struttura patriarcale, poi ha alimentato la struttura capitalista. E quindi è già, penso, un tre mesi che abbiamo creato un laboratorio permanente antisessista, oppure femminista, si può dire, anche se a volte c'è un po' di prurito a questa parola, sfortunatamente. E quindi ci incontriamo una o due volte al mese per cercare di costruire, cercare di capire cosa significa nella vita di tutte e tutti, perché essendo immersi appunto nel sistema di cui parlavamo, tutti abbiamo degli atteggiamenti un pochettino sessisti o anche discriminatori rispetto all'appartenenza di genere. E quindi una cosa che poi, parlando di questa avventura che abbiamo intrapreso, di questo cammino, visto prima si parlava di cammini che abbiamo intrapreso, ha suscitato interesse anche in altri collettivi, anche in altre associazioni, in altri squat o qualsiasi realtà, gruppi, di creare appunto un momento dedicato una volta al mese o non so, una volta ogni due mesi, ma o magari una volta a settimana, dove ci si confronta sul tema dell'antisessismo o almeno dell'uguaglianza rispetto all'appartenenza di genere. E quindi secondo me potrebbe essere, al di là di invitarvi, noi creeremo un evento il 17 dicembre, dove faremo appunto dei laboratori, perché vogliamo che non sia una cosa frontale oppure teorica, ma che ci siano proprio dei laboratori anche pratici dove indagarci noi in prima persona. Però secondo me è fondamentale appunto far entrare in ognuna di queste realtà che sta provando a ricrearsi anche il tema del sessismo. E poi vabbè, visto che si è parlato, non si parla solo d'Italia, chi vuole venire in Ecuador, io sarò lì fra un mese, anzi dall'anno nuovo. E abbiamo una rete, abbiamo fondato una rete amazzonica di permacultori e permacultrici, e quindi stiamo cercando di introdurre permacultura in zone contaminate, un pochettino come abbiamo visto ieri dal documentario, in zone contaminate di petrolio, e quindi che non so, contaminazione solamente ambientale, ma si tratta di una geografia oppressiva e sfruttatrice, e quindi anche sulle comunità. E poi c'è un gruppo ambientalista che, se volete seguire su Facebook o sul sito, che si chiama Yasunidos, a cui appartengo, e ci chiamano gli ambientalisti infantili, proprio perché cerchiamo di usare metodi di comunicazione anche contro appunto il sistema, che ci vuole tutti seri, tutti un po' impostati, e invece noi ci vogliamo divertire essendo ambientalisti, ecco. Allora io pure sempre nell'ambito delle proposte non parlo in questo momento come nodo solidale, perché l'altra anima, che è quella appunto, è uscito fuori anche il discorso che faceva Franco prima, e mi ricollego al discorso che è molto interessante che avevano fatto le compagne e compagni di The Rich relativamente a questo posto che si chiama Fico, se non mi sbaglio, no? Questo appunto il capitalismo corre e è molto veloce e si è appropriato appunto di questa nuova faccia. Noi siamo molto indietro su questo, la nuova faccia del Green Italy, Fico. E la proposta è quella, visto che comunque questo è anche un momento di condivisione dei saperi e anche di progettualità, di condivisione, si è parlato di piattaforme, si è parlato dei futuri incontri, e secondo me, questa è un'analisi personale che faccio, siamo molto indietro noi su questo, sulle nuove forme di capitalismo, le nuove forme di conoscenza, le nuove forme in cui si sviluppa il capitalismo, soprattutto nel settore green, siamo molto indietro. Io vivo a Pitigliano in Maremma e faccio parte di un comitato contro le costruzioni di centrali geotermiche. Franco e la comunità appunto di Monticella Miata, la stessa cosa. Quando noi andammo a vivere in quei territori, per noi le centrali geotermiche era positivo, era il futuro, era la cosa. L'abbiamo scoperto dopo che era devastazione territoriale e saccheggio dei nostri territori e inutilità totale. Quindi la proposta pratica che faccio anche è che in futuri incontri ci siano anche workshop o laboratori che si dedichino proprio a questo, e nei quali appunto noi, io in prima persona, visto che purtroppo siamo dovuti diventare esperti del settore, nostro malgrado, sulla questione ad esempio della costruzione di centrali geotermiche, noi ci mettiamo anche a disposizione appunto per condividere quello che abbiamo imparato su questa cosa, perché non so quanta gente qua dentro giustamente sa che cos'è una centrale geotermica, non è il momento di parlarne, però appunto è importante che queste piccole, che le nostre piccole battaglie che non sono condivise, non sono comuni a tutti, vengano anche raccontate e diventino un patrimonio comune, come appunto la battaglia che si farà a Bologna, o comunque la vertenza, la mobilitazione che si farà a Bologna sulla questione Fico, il nuovo Italy o quello che sia. Quindi insomma, una proposta pratica anche quella, il fatto che noi ci mettiamo anche a disposizione per condividere quello che abbiamo imparato, per fare anche insomma condivisione dei saperi comuni sulla questione dell'avanzamento del capitalismo green, e noi nello specifico sulla questione di questo tipo di energie rinnovabili. Allora, due cose. Una puntualizzazione, perché giustamente Erika ha raccontato del gruppo di formazione di Genuino Clandestino di Bologna, però se ne è fatto un altro nelle Marche, e quindi l'idea di piattaforma era un po' improponibile perché non riusciamo a metterla in atto. In realtà credo di poter condividere questo strumento, che secondo noi è molto utile, perché a Genuino Clandestino ci sono tanti nodi, alcuni sono più vicini territorialmente, alcuni hanno bisogni di formazione condivisi, altri invece si compensano, e quindi all'ultimo incontro abbiamo deciso di creare un file interno dove ogni rete possa mettere tutte le sue competenze e tutti i suoi bisogni, ovvero le lacune della rete o le sofferenze proprio logistiche o di organizzazione delle varie reti. In questo modo rilanciamo non sempre e non solo la pretesa di fare mega incontri di formazione eccetera eccetera, ma soprattutto facilitare degli incontri fra reti vicine o fra due reti che si compensano fra bisogni e esperienze, e anche sviluppare, oltre al momento pratico dello scambio più tecnico, che ne so, sui semi piuttosto che su come coltivare o allevare, anche un piano di conoscenza fra gruppi e di sviluppo di politica, che non è solo è anche fare il contadino, però è anche organizzarsi su tematiche più ampie. Mi sembrava il caso di metterle in comune. E poi l'altra cosa me la sono dimenticata. Vabbè, pazienza. Spegno. E, no, io volevo solo mettere, diciamo, in condivisione uno strumento se può essere utile, perché noi nel nostro territorio, un po' per rispondere all'esigenza di autofinanziarci, un po' per fare un lavoro politico sulla cultura dopo che ci hanno cacciato da un cinema, due volte da un teatro, distruggendo questi due palazzi e lasciandoli abbandonati, ci siamo presi un parco e da 5 anni facciamo questo festival indipendente, che ha raggiunto abbastanza una risonanza anche mediatica per il livello un po' artistico che ha raggiunto, e che ovviamente riempiamo di dibattiti, di discussioni, presentazioni di libri, e quindi lo mettiamo come strumento, nel senso che se vogliamo creare un momento di incontro che possa parlare di lotta sul cibo, autodeterminazione alimentare o diciamo lotta ambientale in senso lato, contro la geotermia e contro le grandi opere, lo mettiamo a disposizione, così come diciamo anche per valorizzare un percorso che stiamo iniziando e provando a fare di connessione tra città e campagna, quindi di connessione fra i nostri consumi e una produzione che è autonoma e svincolata dal profitto di cibo con un gas. Insomma, mettiamo a disposizione questo strumento se può servire. Scusate, mi sono ricordato. No, io no, non faccio direttamente parte del collettivo Ire Common, che ieri ha fatto la presentazione insieme a me del documentario. Comunque, proprio nell'ottica di strumenti, io penso che ci sono 10 anni di lavori, di analisi su come si estrae, su come si fanno le centrali, su come si sono organizzate le varie comunità, e secondo me, essendo tutti pubblicazioni gratuite che potete trovare su internet, secondo me chiunque volesse approfondire o volesse chiedere a loro di fare incontri, credo che loro siano disponibilissimi sulle cose più tecniche, anche perché ieri abbiamo parlato delle zone economiche speciali, e penso che una cosa che soprattutto per il centro-sud colpirà nei prossimi 5 anni varie zone d'Italia, quindi è il caso di non accorgercene quando la devastazione è già in atto. Vabbè. Allora, sono in contatto con una compagna che lavora sulle Alpi, e insieme stiamo cercando appunto di trovare il modo di rompere l'indifferenza e la rimozione sul problema dei cambiamenti climatici. Lei mi ha spiegato che da loro in pratica ci stanno intere zone che dipendono per l'acqua dallo scioglimento dei ghiacciai. Lei mi ha detto, quando i ghiacciai appunto saranno sciolti, non ci sarà più acqua in queste zone. E lei dice appunto che intere zone d'Italia saranno desertificate. Ora questo meccanismo di indifferenza e di rimozione non è casuale, è stato costruito ad hoc per appunto continuare a far avanzare e a mantenere i profitti alti fino agli sgoccioli appunto, e quindi bisogna assolutamente trovare il modo appunto di rompere questo meccanismo appunto di rimozione e di indifferenza, che però appunto attraversa tutti gli ambiti sociali, compreso qui, insomma, nel senso appunto se ne parla in maniera, diciamo, di lato, come a dire, insomma, quando invece è centrale, sarà centrale, Già adesso, cioè è anni che per esempio dei compagni che stanno in Umbria, un compagno che sta in Umbria in una e fa agricoltura biologica, mi segnalava appunto il problema che le lenticchie e ora adesso i ceci e varie cose sono diminuite molto, insomma la produttività di certe cose si sta abbassando molto, e quindi questa cosa sarà un danno, diciamo, diciamo che coinvolgerà di fatto grossi settori della popolazione, perché appunto certe produzioni sono influenzate da questa cosa, per esempio. Grazie Ottavio. Bene, intanto davvero grazie a tutti, perché non ho dovuto fare né il mediatore né il facilitatore, perché vi siete tutti automoderati, autofacilitati, quindi benissimo, altissimo livello di attenzione, e quindi possiamo veramente adesso un po' fare alcune decisioni prima di andare a mangiare, per l'1 e mezzo verrà servito il pranzo, mi hanno detto dalla regia. E mi sono segnato un po' di cose, ovviamente quella che è uscita di più come anche necessità, quindi adesso di avere una conclusione pratica, è quella della piattaforma, ma in che forme? Perché se ci sono già piattaforme esistenti, allora ci bisogna trovare un po' un link, una connessione con loro, e per cui ci vorrebbe secondo me qualcuno di qua che si proponga, un piccolo gruppo che, no, che si proponga spontaneamente, come Monica, Mattia, Erika, nomi a caso, di chi parlava di piattaforma, no, più che altro per contattare, poi anche capire chi sta già facendo quest'altra piattaforma e vedere come apportare anche tutto quello che sta succedendo qui in questi due giorni. Quindi chi si propone intanto di creare un gruppetto di connessione con una piattaforma già esistente, o un gruppo che capisca se davvero c'è bisogno di fare una nuova piattaforma comunicativa, eccetera. Che poi non è che uno deve decidere, nel senso, non deve arrivare a delle soluzioni ora, però se già entro oggi pomeriggio c'è già 3-4 persone, magari, ecco, durante il pranzo e nel pomeriggio già possono cominciare a lavorare su questa cosa, quindi non abbiate paura, non è... Nessuno, stiamo parlando di... Ecco. Certo, volevo dire... Appunto, volevo dire questo, sono molto, molto contenta che sia emerso così tanto il tema della comunicazione, perché per oggi pomeriggio dalle 16 abbiamo organizzato un workshop di mediattivismo con autistici, e che ripercorrerà un po' la storia del mediattivismo dagli anni 80 e gli strumenti che possiamo utilizzare per riappropriarci della comunicazione. Quindi sicuramente sarà un momento per portare avanti questo discorso. E il secondo laboratorio invece è Ecologia Politica con Andrea Gelfi. Sì, no, aggiungo una cosa brevissima, che appunto quella lavagna lì dietro che vedete sono le proposte che sono state fatte fino adesso, quindi il tentativo nostro ora è quello di sistematizzare le proposte fatte e cercare a grandi linee di, diciamo, effettivamente calendarizzare per quanto è possibile queste iniziative e gli strumenti che sono stati proposti. Infatti, per esempio, sempre sull'argomento della comunicazione, te parlavi, non mi ricordo il tuo nome, scusa. No, te. Dino. Della sintesi comunicativa, no? Per esempio. Avevi una proposta in particolare, a parte sì, di spostarti dal sole perché ti stai accecando. Se avevi qualche idea su come proporre una sintesi comunicativa, per esempio, di questi due giorni, come riuscire a creare qualcosa o un opuscolo che, dove ci sia poi una sintesi di ciò che è successo in questi due giorni. Non lo sto buttando lì, però per vedere se c'è. No, scusa, è che mi sono segnato tutto, quindi adesso vi becco. Ora l'interrogazione inizia. No, nel senso, nel mio cervello, con l'esperienza che ho, piccolissima, brevissima, però, magari potrei anche proporre di fare un laboratorio di tipo come captare e capire quali sono poi le, perché purtroppo, cioè, il mondo di oggi è stracolmo di immagini, e per quanto faccia schifo ridurre a delle singole parole, a delle singole immagini, dei concetti molto più belli, molto più ampi, molto più studiati, però questa cosa è necessaria per parlare alle masse, perché quindi alla fine i modi di comunicare, le piattaforme sono molteplici e vanno tutte benissimo, perché può essere una rivista stampata, come possono essere dei volantini, come può essere una pagina Facebook. L'importante è capire come una cosa possa funzionare, quindi come capire, buttare per terra le parole chiave, i concetti chiave, e associargli delle immagini che non sono state utilizzate 20 milioni di volte, e anche, insomma, è un discorso abbastanza complesso, però bisogna imparare a sintetizzare, secondo me è questo il fatto, perché te ne rendi conto sin dal liceo, quando distribuisci i volantini, che più di 10 righe, purtroppo, e non, a volte non vengono lette, e è stupido dire noi che ce ne frega a noi della gente, tra virgolette, ignorante, che non si vuole nemmeno mettere a leggere un volantino, però questo è sbagliato, perché dobbiamo capire che i nostri cervelli sono costantemente bombardati e non abbiamo il tempo fisico di stare ad analizzare. Va bene. Poi un piccolissimo esempio, ad esempio sui cambiamenti climatici ci sono fior fior di ricerche fatte da studiosi che mostrano quanto stia distruggendo il pianeta questa cosa. Il problema principale è che queste ricerche vengono lette solamente a chi ha studiato quelle cose, a chi è realmente interessato, a chi è disposto a passare giornate intere ad analizzare dei documenti scientifici. Manca la sintesi per la gente. Invito proprio per nell'evento di oggi pomeriggio di utilizzarlo proprio per fare proposte del genere, per riuscire quindi ad arrivare magari già a una calendarizzazione, a un'agenda con alcune date, gennaio, febbraio, anche dicembre, in modo da riuscire a mettere già, avere occasione di vari gruppi di rincontrarsi. Leggevo laggiù anche per esempio la parte di formazione, scambio di competenze, eccetera. Queste mi sembra che siano arrivate molte proposte, a parte dal Nodo Solidale, anche dal No Porto, da Bologna, da Roma, insomma, tanti. Scusa. Da Mondeggi, ovviamente, siamo qua e ci saranno molte altre proposte. E poi anche un incontro, avevo letto anche l'incontro, diciamo, urbano-rurale. Anche questo, se ci sono 2, 3, 4 persone che vogliono già pensare a un incontro invernale da dividere un po' tra Mondeggi e Firenze, dove riuscire a vedere in che modo si può collaborare, creare mutualismi, città-campagna, quindi anche questo. Scusa, la proposta sarebbe quella di fare un gruppo anche sui cambiamenti climatici. Va bene, proposta gruppo cambiamenti climatici, anche questa, chi è interessato appunti il proprio nome. Le cose che si possono andrebbero fatte. Assolutamente. Chi voleva parlare? Io volevo un po' rispondere rispetto a tutta questa questione della comunicazione di cui si è parlato appena adesso. Io, a parte il fatto che non mi piace molto il termine massa, anzi non mi piace affatto, cioè parlare alle masse per me questa cosa non ha senso, non ha molto senso il discorso di dire parlare alle masse, e mi sembra invece che ci siano delle riproduzioni comunicative che però sbagliano, secondo dal mio punto di vista, sbagliano un po' a mettere in luce le cose, cioè mi sembra che ci sia moltissimo l'esaltazione dell'eroe o dell'eroina di turno, e questo allontana la persona e mette da una parte l'eroe o l'eroina che sa fare qualcosa o che si è comunque liberato da tutta una serie di dinamiche e che quindi spinge e trascina, e dall'altra parte te che non puoi fare altro che guardare. E in particolare rispetto ai cambiamenti climatici io non credo che non ci sia consapevolezza, cioè DiCaprio ha fatto un documentario l'anno scorso, cioè più nel senso più divulgativo di così non so cos'altro ci potrebbe essere. Porto una cosa piccolina rispetto al portare la campagna in città. Porto avanti nelle scuole fiorentine primarie e secondarie dei laboratori che parlano di autodeterminazione alimentare, autoproduzione e autogestione della salute. Per cui invito a tutti educatori, educatrici, formatori, insegnanti che se vogliano insomma, contattarmi, mi piacerebbe presentare questi progetti perché possano anche loro riproporli nelle scuole pubbliche, private, libertarie, parentali, eccetera. E quindi ben venga, cioè, mi piacerebbe condividere con voi questo progetto che è scritto, ha funzionato, è stato riattivato, ripartirà a fine gennaio appunto a scuola, e, oppure anche rendermi disponibile a portarlo comunque alle nuove generazioni, quindi ai più piccoli. Eccomi. Allora no, dunque, volevo dirvi una cosa perché avete parlato di comunicazione abbastanza, fra l'altro, e noi, essendo venuti qua in quanto radio, ecco, ci occupiamo di questo e ci piacerebbe continuare a farlo e a passare, a noi interessa fondamentalmente passare le voci che vengono da qui, queste voci qua. Quindi lo stiamo già facendo adesso con una diretta, lo faremo passando tutti i contenuti, buona parte dei contenuti che sono venuti fuori e che verranno fuori da questi due giorni. Naturalmente abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, quindi come posso dire, cioè, fateci sapere, noi siamo disponibili a passare le voci di tutti e quindi a essere presenti anche quando possibile e come è possibile. Siamo uno di quei mezzi, non uno di quei mezzi che può servire alla causa, non l'unico, ne servirebbero tantissimi, però insomma intanto noi ci siamo e insomma aiutiamoci. Sì, rispetto a questo tema della comunicazione volevo precisare anche, per esempio, e così mi riallaccio anche a quello che dicevo e che è stato detto, che per quanto riguarda la comunicazione dobbiamo anche stare attenti al fatto che si tratta di uno strumento, forse meglio di un canale, ma che come qualsiasi medium è coerente con quello che vuol con il tipo di ambiente in cui si situa e con il tipo di organizzazione che la utilizza. Non a caso c'è stata una rimostranza e condivido sul discorso della comunicazione di massa. C'è una comunicazione per immagini, non è solo più sintetica, è una comunicazione adatta alle masse. Nel senso che, capito, io non posso considerare che quella arriva di più e quindi sceglierla perché arriva di più, perché io non voglio arrivare alle masse, io non c'ho da vendere un dentifricio, non mi interessa, cioè non è una posizione elitaria, è una posizione, devo trovare, scovare uno strumento e un canale che veicoli quel che mi interessa e che non è un discorso di massa. uno, quindi questo va considerato. Secondo, occorre considerare che, e si ritorna all'inizio, mi interessa fino a un certo punto arrivare a comunicare se non so bene cosa comunicare, perché un tempo la comunicazione si chiamava informazione, o meglio controinformazione, è già stato accennato da qualcuno, oggi di controinformazione, un po' estremizzo ed esagero, ma non tanto, non c'è da farne tanta, perché voglio dire, la società globale è addirittura depressa dall'assoluta mancanza di prospettiva di questo modello. È diventato senso comune il fatto che questo modello è inquinante, che ci sta ammazzando, che ci avvelena. Non è che devi convincere la gente o informarla. La gente lo sa di già che è così. Il problema è che non ha un'alternativa, non gliela proponiamo, non abbiamo una proposta, e su questo dobbiamo lavorare. Non è che io devo convincere che si sta sciogliendo ghiacci, in buona sostanza lo sanno. E comunque sanno che è una fregatura. E il problema è che cosa gli offro un campo, cioè, stante questa situazione, cosa facciamo? Come ci organizziamo per uscire da questa trappola? Come ci organizziamo in termini concreti, parziali, ma comunque che prospettiva, che orizzonte abbiamo? Una cosa, credo che si sta facendo anche un po' di confusione su due piattaforme, anche due proposte che si sono fatte, che alla fine uno era la piattaforma di scambi, che è una cosa forse più interna, che ogni collettivo può usare per capire cosa stanno facendo collettivi della zona, collettivi di altre zone, per capire com'è la situazione, come possiamo aiutarci, come possiamo diventare complementari. L'altra era quello che era stato accennato, Indie Media o Sub Media, un collettivo di Montreal, che sarebbe più divulgazione di informazioni. Però la mia proposta sarebbe che queste sono due cose molto diverse e devono essere anche trattate in modo molto diverso, e che allora non confondiamole una tra l'altra. Invito tutti a non prendere la parola se non vi siete segnati, per favore. No, io sulle proposte, come concretizzarle, rispetto all'incontro di insomma, che prima è stato sull'esperienza appunto della gruppa, ma in realtà di riflessione sulla salute, comunque di scambio di esperienze, non lo so, stavo pensando se l'incontro di GC, cioè qual è il contesto più appropriato in cui cioè costruire questo spazio, se è già previsto nell'incontro di GC, che non ho capito se sarà a Mondeggi di aprile, se quello è, se è un momento in cui si potrebbe creare una parte del GC laboratoriale di condivisione di esperienze, un po' come oggi magari la possiamo costruire insieme partendo anche dalla nostra esperienza, però appunto su dei temi che scegliamo, che cioè partono da qua. E anche lì non so se cioè c'è spazio per fare uno scambio di competenze anche rispetto all'esperienza dei comitati, come quelle che si riportavano prima, e dell'autoformazione di cui si parlava prima. Quindi magari, cioè so che di solito gli incontri di Genuino Clandestino sono hanno dei momenti laboratoriali diversi, e quindi si potrebbe anche costruire insieme partendo da quello. Poi volevo dire anche come altro momento intermedio di riflessione per chi è interessata, interessato, che noi appunto sempre come gruppo faremo a dicembre il 16-17, quel weekend lì a Bologna, continuiamo una nostra riflessione appunto che è partita da tutto questo percorso di cui parlavo prima, che ha come diciamo macro tema le pratiche del comune in salute, ma si concentrerà su questa questione della costruzione di comunità e della relazione con le istituzioni, dei processi di come diciamo costruire e stare in processi di soggettivazione in questo senso. Quindi questo diciamo non è un incontro propriamente aperto, nel senso che è nato proprio come spazio spazio di riflessione interna alla gruppa, ma essendo un gruppo permanentemente aperto, chiunque ha voglia di partecipare anche o come esperienza in realtà o come singola o singolo, cioè mi può far sapere dopo e vi lascio i contatti. Quindi non lo so, capiamo se quest'altro momento di incontro poi può essere l'incontro di GC a... Sì, penso che ci sarà occasione, anzi, potremmo parlare proprio di questo oggi pomeriggio, perché c'è un laboratorio saltato, quindi c'è uno spazio che potrebbe essere utilizzato proprio per definire meglio queste cose, se siete d'accordo o se pensate che invece possa essere utilizzato in un altro modo, insomma, un laboratorio in extremis che stiamo creando in questo momento. Quindi uno potrebbe essere proprio questo di organizzare un incontro del genere a partire da oggi pomeriggio, e sì, un attimo, sì. Scusate, non voglio rubarvi troppo tempo, solo per dirvi ora, allora, noi non vogliamo fare una mailing list, allora, questo è il premesso. A te sei sempre contro. No, però io ora appenderemo un foglio a questa bacheca, che non è per creare una mailing list, però vi preghiamo, avete già appeso il vostro materiale informativo, però chiunque volesse ritrovare i vostri contatti, così mettiamo un foglio e se volete scrivere il nome del collettivo, gruppo, progetto, individualità, e appunto un contatto, così da poter anche ritrovarsi a prescindere dal fatto che facciamo una piattaforma o meno, no? Perché poi a parte la comunicazione le cose si costruiscono anche praticamente. Ecco, io voglio proprio andare a fare il corso di vela a Roma, cioè non me ne frega nulla, cioè nel senso, ecco, quindi voglio il numero loro per chiamarli, ecco. E io un po' per rispondere anche a lui, che diceva quale può essere la risposta, visto che sappiamo che comunque a livello politico internazionale ci sono degli interessi tali che è difficile riuscire ad andare a intaccare finché non ci sono le masse di cui si parlava. Secondo me una risposta a questo è proprio un po' il tema di questa giornata, della comunità, nel senso che la ricreazione delle comunità dal basso, secondo me, è l'unica chiave che abbiamo, è l'unica via che abbiamo per andare a in 20-30 anni a ricambiare. Io sono tornato da Barcellona, dove negli ultimi mesi ho conosciuto due cose abbastanza importanti riguardanti il tema della comunità. Uno è quello della comunità a livello cultural politico, del riconoscimento in una comunità oppressa, che è quella del popolo catalano, che è riuscita tramite anni di riconoscimento e di lotte poi a far sì che quel riconoscimento si allargasse a tutta la popolazione e che portasse a un sentimento comune, che è riuscito ad andare oltre alle diverse visioni, alle diverse idee, e che mi ha ispirato sul fatto che comunque una strada da percorrere possa essere quella di ricercare di andare a incidere sui poteri, cioè sui territori, riportando i poteri nei territori, considerando che comunque ormai i poteri sono stati centralizzati in grandi stati continentali. L'idea di andare a rincidere sul territorio, sui comuni, sulle regioni, sulle province, sui comitati di quartiere e di condominio, secondo me è una questione abbastanza fondamentale, proprio perché la comunità è ciò che manca all'uomo di oggi, ciò che l'uomo di oggi ha più bisogno. Dal mio punto di vista, l'altra cosa è il motivo per cui sono andato a Barcellona, poi era seguire questo progetto della cooperativa Integral, che tra l'altro, in cui tra l'altro mi hanno parlato proprio di Mondeggi e di Genuino Clandestino, che sono realtà che io, diciamo, pur restando a Firenze, conoscevo meno, e quindi proprio per questo sono anche voluto venire a Mondeggi. La cooperativa Integral sostanzialmente cos'è? È un progetto che lungo da spiegare, però che sostanzialmente cerca di ricreare un modello di vita alternativo dal punto di vista economico, organizzativo, principalmente dal punto di vista economico, mette in relazione tante piccole attività, in particolare anche molto legato al tema dell'agricoltura, però della salute, dell'educazione, e secondo me può essere un modello e un'idea che poi può in realtà darci tanti spunti e tanta strada su tutti gli altri temi, a partire da quello della comunicazione, nel senso che cos'è che fa la cooperativa? Cioè l'idea è quella che si debba cercare di ricreare, di renderci indipendenti anche da un punto di vista lavorativo rispetto al sistema capitalista, perché io sono dell'idea, mi sto rendendo conto che, diciamo, mentre chi porta avanti devastazioni, saccheggi e chi ci sta sostanzialmente rovinando la vita lo fa tutte le mattine dalle 9 a, per 8-10 ore al giorno, mentre noi siamo un po' costretti nei limiti del nostro lavoro, dei nostri studi, delle nostre, e ci troviamo a fare determinate questioni, determinati dibattiti nei nostri ritagli di tempo libero. Quello che viene proposto tramite la creazione di è la creazione di lavoro alternativo, cioè riuscire a rendere quello che noi facciamo la nostra attività principale. Chiaramente non è facile all'interno di un sistema capitalista, però per esempio all'interno dell'operativa, oltre a creare ovviamente gli scambi fra tutte le piccole attività, a dare una copertura legale, l'altra cosa che stanno inserendo passo a passo è quello di una moneta sociale sostanzialmente che circola all'interno di questo circuito. E, diciamo che oltre ovviamente a dare una possibilità a tanta gente di portare avanti i propri progetti, di crearsi una rete, secondo me in generale questo approccio può essere utile a sviluppare tanti progetti che finché sviluppiamo nel nostro tempo libero obiettivamente sono difficili da portare avanti, mentre quelli che stiamo combattendo lo fanno tutti i giorni. Se riusciamo a rendere in un certo senso sostenibile tutti questi nostri progetti, anche dal punto di vista personale, umano, e ricreando comunità, e ricreando connessioni, ricreando rete, diciamo, se c'è qualcuno interessato al progetto e a queste cose, poi mi piacerebbe parlarne in futuro. Non arrivo. Va bene, velocissima, una proposta a collo in realtà. No, visto che c'è sia la rete Genuino Clandestino che siamo Mondeggi, io vivo in un posto in cui c'è stato un grosso problema con la siccità nell'ultimo anno. Quindi di fronte abbiamo banalmente tre scelte. Una è quella di mollare quel posto e cercarne un altro con più acqua. Non siamo attaccati all'acquedotto, ma usiamo l'acqua della montagna, no? Che arriva. L'altra è sfruttare al più possibile la risorsa d'acqua della montagna, ma ci pone in una relazione con l'ambiente che noi non vogliamo tenere. E la terza è che creiamo competenze per il recupero dell'acqua in varie modalità e anche per capire come coltivare con meno acqua possibile, oppure cambiando anche la coltivazione, provando dei sementi che stanno in territori con meno acqua, eccetera, eccetera. Quindi, visto che si parlava di cambiamenti climatici e visto che c'è tutto questo spazio anche di persone che vivono la ruralità, a noi ci abbiamo un estremo bisogno di questa cosa, che stiamo in Liguria. E quindi magari di fare proprio un workshop su questo, cioè su come noi nelle nostre vite, rispetto ai cambiamenti climatici che affrontiamo, anche se facciamo, se coltiviamo, facciamo qualcosa con la terra, cioè proprio tutto sull'acqua, sia il recupero che magari anche le coltivazioni, eccetera. Non so dove o come, cioè magari, visto che sono a Mondeggi, mi pare il posto migliore dove dire questa esigenza che c'è. E che è comune, immagino. Esatto. Velocissimamente, anche se secondo me chi è interessato a questa cosa della comunicazione, sarebbe bello appunto vedersi al workshop dopo, magari discutere direttamente, era più per rispondere un po' a quello che dicevi. Niente, io penso che sicuramente manca da una parte un punto, cioè una controinformazione, sono d'accordo sul discorso sulle masse e tutto, ma proprio per creare proposte differenti, quindi una sorta di piattaforma in cui da una parte di divulgazione, di pratiche, di modi di vita, di stili di vita, di modi di organizzarsi che già esiste in parte, ma appunto che sia più globale, e poi dall'altra parte anche metodi, di azioni, di... Boh, insomma, ci sono tante cose di cui secondo me, cioè, che qualcuno si deve studiare per poi cercare di rendere fruibili come discorso appunto a chi è interessato a quell'argomento lì. Quindi se si parla di, cioè, si può parlare di tante cose, di come effettivamente essere incisivi, azioni dirette o meno su determinate cose. Insomma, secondo me il discorso sulla comunicazione è da fare sia da un punto di vista divulgativo sia proprio per cercare di anche organizzarsi da un punto di vista più pratico. Non ho risposto, era però un... se c'è qualcuno davvero interessato a fare, a pensarci, se ci vediamo al workshop. Grazie. Allora, per concretizzare, vogliamo approvare che oggi pomeriggio venga utilizzato lo spazio di quel laboratorio, cioè lo spazio libero di un laboratorio, per vedere in che modo, cioè se e in che modo, portare alcune tematiche come quelle proposte da Gruppa al GC che verrà fatto, che ci sarà ad aprile qua, l'incontro nazionale di genuino clandestino. Esatto, come tutte le proposte sono state, quelle della Teresa, eccetera, anche ovviamente no. C'è uno spazio da utilizzare, quindi se qualcuno vuole il microfono per esprimere dissenso, se no vi riporterei allora, visto che ci stiamo conoscendo, che vogliamo riproporre cose come queste, anche Mondeggi è interessato ovviamente a continuare a farne sempre di più, a spostare il sito, ma comunque anche a rivederci noi. Allora, qua ho messo il 3 dicembre, quindi a Napoli, l'incontro per la salute autonoma. Quindi c'è Giovanni il 2 dicembre, c'è qui Giovanni con loro, con il 3 o il 2? Il 2 è questo incontro che dice a Giovanni sulla salute, il 3 è a Bagnoli la presentazione sempre del documentario di Neto. Benissimo. 2 e 3. Cioè, insomma. Il 2 a Napoli è ex OPG, il 3 a Bagnoli. Vi invitiamo ad andare a vedere tutti quelle piattaforme che sono già esistenti, per capire semmai come integrarle, eccetera. E qua c'è un laboratorio oggi pomeriggio. Comunque stavamo parlando del sito Resistenza Globale Autonoma, del Facebook Potere al Popolo, e ovviamente anche appunto ringraziamo la radio, grazie Wombat, Radio Wombat, che continua ad esserci. Grandi, sono stati i primi a entrare in questa sala stamattina e saranno gli ultimi a uscirne, quindi grandissimi. E poi proposte c'era appunto a vedere anche Indie Media, eccetera, però tutto questo se ne parlerà nel laboratorio di oggi pomeriggio. È stato messo qui dietro, stanno mettendo una bacheca per scrivere i contatti, il nome della rete e anche di che cosa magari vorreste occuparvi o che cosa proponete, così uno sa già chi contattare. Rimandiamo all'incontro Città Campagna, che speriamo anche questo nel corso di oggi si identificano 2, 3, 4 persone, un paio dei collettivi urbani fiorentini, un paio di persone di Mondeggi che comincino a mettersi d'accordo su date e temi da affrontare insieme. Sul tema della facilitazione e metodi assembleari, anche questi se ne può parlare oggi pomeriggio al terzo laboratorio, al workshop libero. Mi sembra ho detto tutto. Scusate, l'ultimo momento di attenzione, cerchiamo di rimanere proprio un attimino attenti. Io anche tutte queste decisioni e questi spunti che abbiamo presi in questo incontro qua è stato proprio pensato per poi cercare di buttare giù un'agenda e anche per attuarli. Quindi io abbiamo utilizzato, cioè utilizzato, abbiamo invitato i ragazzi di Radio Wombat, abbiamo utilizzato lo strumento del verbale e dei, appunto dei cartelloni per potervi restituire tutto ciò che è stato detto oggi, e quindi vi invito a lasciare i vostri contatti, a interessarvi oggi pomeriggio nei tavoli, a scambiarvi tra di voi i vostri contatti e nulla, grazie mille a tutte e tutti.